Allora, buonasera a tutti, grazie per essere qui. Io sono Katia Papa, coordinerò il dibattito e il dibattito che si, cioè, le relazioni e il dibattito che si svolgeranno su Fatti e Norme, il testo di Habermas che appunto proponiamo oggi alla lettura critica. E, io diciamo interpreto questa mia introduzione in un modo molto leggero, anche perché io sono una storica e quindi il mio rapporto con Habermas è parzialmente differente, credo, da quello che oggi insomma sarà praticato, nel senso che per me, per la mia cultura, per la mia formazione, una centralità, una grande rilevanza ha avuto il testo Storia e critica dell'opinione pubblica. Quello è stato il riferimento, diciamo, credo per tutta la generazione di storici della mia età, ecco. Però appunto preparando questo, cioè riflettendo su questo incontro, riflettevo sul fatto che in realtà il mio studio, la mia conoscenza di storia e critica dell'opinione pubblica è stato mediato dalla riedizione del 1990, cioè non il testo uscito nel 62, ma il testo riedito negli anni 90 con quella lunghissima introduzione di Habermas che rifocalizzava l'opera giovanile, se così possiamo chiamarla, perché comunque appunto un'opera del 62, e che la rifocalizzava proprio, appunto, la riedizione tedesca è del 90, quindi siamo successivamente all'uscita del testo sulla teoria dell'agire comunicativo e siamo alle soglie di Fatti e Norme, insomma, più o meno. Quindi quella introduzione, io per chi non la conosce, insomma, consiglio di andare a rileggerla perché è un passaggio, almeno per me è stato un passaggio importante. Ripeto, per me che sono una storica, mi piace sottolineare questa cosa perché credo che sia importante sottolineare quanto il sapere sia interdisciplinare, cioè è impossibile fare storia senza leggere Habermas, credo, no? Così come. E appunto di quella introduzione, di quel testo, quello che poi alla fine a me passò di più, appunto siamo, ripeto, all'inizio degli anni 90, era proprio il discorso sulla formazione discorsiva della volontà generale, no? Perché per noi quelli erano gli anni 80 sono stati gli anni della messa in discussione del repubblicanesimo, no? Dell'idea appunto che esistesse una nazione come comunità etnico-politico-culturale che sostanziava la sovranità democratica. Sono gli anni di Benedict Anderson, di tutta il discorso sulla costruzione della nazione, la costruzione anche discorsiva, appunto, no? Ma non solo, sono gli anni che poi daranno vita, parlo sempre da un punto di vista storico, ai testi di Reinhard sulla costruzione dello Stato, anche lì intendendo lo Stato come una costruzione culturale, prima ancora che istituzionale. Quindi sono anni in cui si incrociano questi stimoli e questi discorsi e l'opera appunto di Habermas porta anche a noi storici degli stimoli fondamentali per procedere. E appunto, ripeto, riflettendo mi rendo conto che poi lì c'era già quello che credo sia in qualche modo il nucleo, dico credo sia perché qui poi lascerò la parola agli esperti, il nucleo di Fatti e Norme, insomma questa idea, come dire, appunto questa democrazia discorsiva, no? Che si basa che è fondata sulla istituzionalizzazione delle forme del discorso, quindi su questa idea, quindi che i diritti, il sistema dei diritti è condizione della democrazia perché assicura quella partecipazione ai processi discorsivi che poi producono la norma, no? La norma giuridica. Quindi quella, diciamo, quegli sono anni di passaggio fondamentali. Tanto gli anni 80 sono stati, credo, condizionati dal testo, un testo enorme, Teoria dell'agire comunicativo, sono due volumi, no? È una cosa, esatto. Quanto poi negli anni 90, appunto, la discussione su fatti e norme ha assolutamente catalizzato l'attenzione, ripeto, in modo interdisciplinare, cioè mi piace sottolineare questo aspetto. E, detto questo, appunto, passo la parola agli esperti per entrare nel merito del testo. Seguiamo un ordine rigorosamente alfabetico, quindi comincia Alessandro Ferrara. Sono entrambi i nostri ospiti, sia Alessandro Ferrara sia Stefano Petrucciani, docenti di filosofia politica, il primo a Tor Vergata, il secondo alla Sapienza. Sono tra i massimi esperti di Habermas in Italia, quindi ci affidiamo a loro e intanto la parola a Alessandro Ferrara. Bene, grazie, è sempre un piacere essere qui a intervenire in questa sede per me. E quello che vorrei fare nella mia 3/4 d'ora di relazione è dare un quadro di insieme dell'opera, del classico di cui parliamo e alla fine, negli ultimi 10 minuti, 1/4 d'ora, anche qualche spunto critico, perché un autore di scuola critica gli si rende onore, diciamo, se si prendono in esame criticamente alcuni aspetti del suo impianto. È un testo, fatemelo collocare un attimo, un testo con cui ho un rapporto molto particolare, perché io ero studente di dottorato, di post-dottorato con Habermas in quel momento. Come dicevi tu, era la fase post-Teoria dell'agire comunicativo, che era una grande opera dell'81, uscita in originale in tedesco. Il Fatti e Norme esce nel 92 in originale in tedesco, nelle traduzioni sia italiana sia inglese del 96. È una lunga gestazione di una decina d'anni in mezzo, e in cui Habermas, di fatto, quindi un'opera più che matura, diciamo, della piena maturità dell'autore, anzi, diciamo che dopo forse non c'è stata un'altra opera di questo livello di organicità di pensiero. Sono state opere, cose importanti, tutto il pensiero sulla religione, sul post-secolare, eccetera, sono importantissimi, però questa è un'opera più organica, così come lo era Teoria dell'agire comunicativo nella storia intellettuale dell'autore, così come il citato Storia e critica dell'opinione pubblica, che è la traduzione italiana di Strukturwandel der Öffentlichkeit, cioè il mutamento strutturale della sfera pubblica. I cui temi sono ripresi, infatti, enorme, quindi c'è una continuità. Allora era il momento, sto parlando come anni dell'83-84, in cui Habermas tirò fuori con un piccolo scritto tradotto come Etica del discorso in italiano dalla Terza, il nucleo fondamentale del paradigma, il nucleo normativo, cioè il principio di generalizzazione discorsiva, l'idea di tradurre Kant in un impianto discorsivo, un discorso di filosofia morale. E qualcuno gli disse che era ricaduto sotto il livello di differenziazione del pensiero kantiano, il quale aveva già una bella distinzione tra la validità di norme morali e la validità di norme giuridiche. Invece quel principio di generalizzazione sembrava valere per tutto. E quello fu un impulso critico che spinse Habermas a imbarcarsi in questa impresa di dire qualcosa sull'aspetto giuridico-politico di una democrazia basata sull'elemento normativo del discorso. Ebbe un grant della fondazione Volkswagen di un milione di marchi di allora, che gli consentì di affittare un locale all'atere degli uffici universitari, mettere su una squadra di ricercatori, i quali sono tutti persone di primo, Rainer Forst essendo uno, sono persone di primissimo piano, e invitò gente dagli Stati Uniti perché gli spiegasse common law e il funzionamento, diciamo, la teoria della democrazia deliberativa dal punto di vista degli Stati Uniti, e avviò questa lunga gestazione, il cui prodotto è il libro del 92. E inoltre, questo libro ha un valore in altri due sensi di fondo. Uno e una è la terza, il terzo grande confronto della tradizione tedesca scritta in grande con il tema del diritto, cioè sta a pari con la filosofia del diritto di Hegel, l'opera di sociologia del diritto di Max Weber, e questa è la terza, cioè è il terzo momento in cui la cultura tedesca alta al suo massimo livello si confronta col tema del diritto. E possiamo dire, questo è, diciamo, fa da ponte con la fase critica poi, che qui Habermas ritraduce i temi classici del pensiero liberal-democratico occidentale, la limitazione del potere, la separazione dei poteri, il tema della legittimità, il consenso dei governati, tutto questo insieme di temi nell'universo concettuale tedesco, il che è la grande forza, anche il limite dell'opera, cioè è un passo da gigante per la cultura tedesca, diciamo un passo normale per la cultura liberal-democratica. Liberale è un termine che non c'è nel libro. Inoltre, questo libro del 92 si situa in una fase che ricostruita benissimo in un libro che sta uscendo di Antonio Floridia sulla democrazia deliberativa, in cui dal crogiolo degli anni 60, in cui tanto si parlava di democrazia partecipativa, di democrazia sostanziale, non solo formale, non solo rappresentativa, da quel calderone cominciò a profilarsi con Joshua Cohen e con altri, con Bernard Manin e altri, un'idea di democrazia deliberativa, anche Fishkin per un verso, poi Rawls, l'opera di Rawls diede un contributo, e questo si situò, questo libro, in quello sviluppo 92, in piena fioritura. Non fu quindi un innovatore, nel senso che fu il primo a tirarsi fuori questa idea di democrazia deliberativa, ma certamente col suo nome come dire, santificò un po' tutta questa impresa, questo sviluppo, e gli diede un grande impulso. Questo è lo sfondo. Andiamo un attimo a cercare di vedere l'articolazione interna. E c'è un sottotitolo complicato, contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia, per cui se dovessimo sintetizzare qual è a tipo trama di film il contenuto del libro, è un tentativo di articolare, di dire qual è il rapporto tra diritto, politica e moralità nel contesto di una teoria e della razionalità comunicativa e della società moderna e della democrazia. Un insieme impressionante di termini, però questo è l'ambizione del tentativo. Teoria dell'agire comunicativo aveva ripreso l'affresco weberiano della modernizzazione come differenziazione di sfere culturali, per cui da un amalgama culturale non ancora pienamente differenziato, bonum et verum conventuntur, convergono, diceva Tommaso d'Aquino, da lì alla divisione tra sein und sollen, essere e dovere, is and ought, che comincia con Hume, c'è una differenziazione enorme di sfere culturali che hanno a che fare con la cognizione, la verità, l'ambito scientifico, che hanno a che fare con l'ambito pratico e che hanno a che fare con l'ambito estetico. Ora, rispetto a questo quadro di teoria del genere comunicativo, Fatti e norme è una zoomata sul componente pratico, che si tripartisce a sua volta in un aspetto morale, l'etica del discorso, un aspetto giuridico e un aspetto più propriamente politico. Quindi è una messa a punto della modernizzazione della sfera pratica in queste sue tre ramificazioni e loro reciproci rapporti. Questo è e dove sta la democrazia in questo quadro. Allora, comincia con una riflessione sul diritto, che ruota la riflessione sul diritto attorno a due tesi. Tesi che hanno a che fare, queste sul diritto, con la genealogia del diritto moderno e la funzione del diritto nella società contemporanea. Allora, il diritto moderno, questo è nei primi capitoli del libro, trae la sua forza normativa ora, e questa è una ricostruzione razionale di dove noi siamo, diciamo, nelle società in cui siamo. Quindi il diritto adesso trae la sua forza normativa non più dal diritto naturale, razionale, filosofico, dalla morale o da concezioni del mondo religiose, ma trae la sua forza interamente da una procedura legislativa che poggia sul principio della sovranità popolare, così a pagina 100. E quindi il diritto moderno è diritto essenzialmente positivo, poggia su questa base secolare di legittimazione. La sua funzione è duplice. A che serve il diritto? Dall'ottica, diciamo, filosofica da cui lo guarda Habermas. Da un lato ha una funzione di sgravio, cioè sgrava noi attori sociali dall'onere della virtù, del tenere a mente l'interesse generale, considerare gli altri, essere altruisti, ragionevoli, dar conto agli altri. Ci autorizza a essere autointeressati, cioè traccia i confini entro i quali, soprattutto il diritto di proprietà e altre cose, entro cui noi non dobbiamo dar conto a nessuno, men che mai alla comunità, agli anziani, alle autorità, a nessuno. Possiamo farci i fatti nostri. Quindi il diritto sgrava gli individui da questi compiti di virtù etica, quindi rende possibile il mercato, eccetera, eccetera, stabilizza il mercato, emancipando un'area di relazioni sociali dagli obblighi della solidarietà, della considerazione dell'altro e così via. Questo è uno. E l'altro è l'integrazione della società, tenerla insieme, fare da cemento. Quindi qui Habermas interloquisce con un altro filo di discorso della modernità che è importante, e a cavallo tra teoria sociale e teoria politica: come sta insieme una società moderna, pluralista, articolata in classi, molto più dinamica di una società premoderna, tradizionale, come sta insieme? In questo i due grandi partiti, diciamo, della teoria sociale e politica sono sempre stati il partito, per così dire metaforicamente, della interdipendenza funzionale, da Adam Smith, la mano invisibile, a finire con Luhmann e le teorie sistemiche. Per due secoli e passa il messaggio è stato: la società moderna non ha bisogno di nulla di condiviso per stare insieme, e l'interdipendenza funzionale delle parti, o in chiave, diciamo, abbastanza elementare, in cui la vede, di divisione del lavoro, in cui la vedeva Smith, fino all'idea dei sistemi autopoietici, sta insieme per interdipendenza. A questo si contrappone l'altra grande lettura, da Comte a Durkheim: è un'illusione, non si può fare a meno di valori condivisi anche nel seno delle società moderne. Per dirla con una slogan, prima che la mano invisibile possa operare ci vuole una stretta di mano invisibile che ci dica quantomeno pacta sunt servanda, stabilisca le regole del gioco, c'è un'intesa valoriale su come ci si comporta nel mercato, poi funziona la mano invisibile, ma senza quella, come direbbe Hobbes, rubandogli un'espressione, si torna alla spada. Allora, in questo poi c'è la, diciamo, la visione marxiana, asimeliana della società che sta insieme attraverso il conflitto, in realtà non sta insieme unitariamente, ma sta insieme a blocchi che confliggono, eccetera, eccetera. In questo quadro qui il messaggio habermasiano si collega a quello weberiano, dicendo con grande originalità: nulla di tutto questo che ho detto, la società moderna è tenuta insieme dal diritto, perché il diritto ha questa struttura da Giano bifronte, fatti e norme viene da lì, cioè per un po' è pura positività, noi ci informiamo, andiamo all'avvocato e gli diciamo com'è qui la legge, che cosa prescrive, e ce la descrive come il geologo ci descrive il sottosuolo di casa nostra se dobbiamo fare uno scavo. La legge sono fatti. da questo punto di vista, e dall'altro lato però non sono solo fatti. Dietro i fatti c'è un richiamo normativo per cui nessun impianto di diritto può funzionare semplicemente sulla base della paura delle sanzioni, ma ci deve essere una componente di consenso, di parlare alla ragione degli esseri umani. Quindi in virtù di questa doppia funzione, di questa doppia natura fattuale e normativa, il diritto è la cerniera, è quello che tiene insieme una società differenziata, complessa come la società moderna. E quindi il diritto integra. Dentro questo discorso, quale diritto? Come dobbiamo concepirlo? La dimensione normativa del diritto, questo è il secondo tema, adesso sto seguendo un ordine mio, la funzione integrativa del diritto, dove Habermas porta questa tesi della co-originarietà. E la dimensione del diritto e la sua pretesa di legittimità è a sua volta attraversata da una profonda scissione, perché per un verso ci sono visioni del diritto che vedono il diritto positivo come rispondente a un diritto previo, naturale. Quindi l'impianto giuridico di un posto, di uno spazio politico, è più o meno legittimo, accettabile, quanto più rispecchia bene quella struttura normativa esterna. Tutti quelli giusnaturalisti sono con questo impianto. E dall'altro lato a questo si contrappone una dimensione anti-naturalistica, una giuspositivista è il termine, in cui Hobbes, ma anche Rousseau è uno di questi, sul versante opposto, diciamo, uno assolutista, l'altro iperdemocratico, però tutte e due condividono l'idea che è follia pensare a diritti che navigano fuori all'esterno, oppure al contrario sono come degli scogli affioranti che la nave del diritto deve cercare di evitare, e invece vedono il diritto come il prodotto di un'autorità legittima. Il diritto è posto, non è inventato, non è scoperto. E questa è una scissione che naturalmente attraversa tutta la teoria del diritto moderno e con cui dobbiamo fare i conti. E qui Habermas elabora una sua tesi che va sotto il nome di co-originarietà dell'autonomia privata e dell'autonomia pubblica, o dei diritti e della volontà sovrana, che è uno dei punti alti del libro, cioè i punti alti del libro. Il libro, nella mia lettura, poi sentiremo Stefano, nella mia lettura l'ho sintetizzata un po' scherzosamente dicendo è un passo da gigante per il pensiero tedesco, una elaborazione, diciamo, nel quadro generale della teoria liberale democratica del diritto. E allora due punti forti di spinta, dove non è solo la buona notizia che il pensiero tedesco ha fatto proprio, metabolizzato l'idea dei diritti, l'idea liberale dei diritti, questa è un'ottima notizia, diciamo, sul piano storico, però sul piano teorico è di minore interesse. Però se ci sono due punti dove questo modo di presentarlo viene sfondato, con un apporto originale che non ha paragoni nella, diciamo, cultura anglofona del liberalismo, uno è questo della co-originalità dei diritti e l'altro è la teoria della sfera pubblica, che è ripresa dal libro del 62 ed è espansa nei capitoli 7 e 8. Allora, qui Habermas sulla co-originarietà dice: Rousseau e Kant sono i due autori che esprimono questa tensione. In Kant il punto di partenza è la postulazione di un diritto fondamentale dovuto a ogni essere umano in forza della sua umanità, un diritto che è concepito come il diritto a eguali libertà soggettive, cioè, da cui discendono una serie di cose e discendono dei diritti, e questi diritti precedono l'associazione umana e la volontà del sovrano, vincolano quella volontà, ma non sono costituiti da essi. Al contrario, in Rousseau la costruzione è specularmente opposta, cioè c'è un primato della volontà generale, cioè della volontà democratica, che pone i diritti, li pone in essere secondo il suo intendimento, cioè quali diritti dobbiamo volere, ed è totalmente libera nel farlo, non deve sottostare a nessun dettame esterno. E anche questa posizione è problematica perché, dice Habermas, questa posizione dei diritti viene da una riflessione etica, di una comunità etica, che esprime, diciamo, la propria identità, la propria sostanza etica, le proprie intuizioni morali nella forma del diritto, e esprime se stessa in qualche modo in questo, e questo ha un'accentuazione, diciamo, etico-esistenziale, ancorché collettiva, che in qualche modo è essa stessa problematica, pone dei problemi di bilanciamento, di diritti, di fondamento, perché non è una specie tirannia della maggioranza o qualcosa del genere. E qui ci sarebbe da entrare nella lettura che Habermas fa di Rousseau, che è problematica, ma non ci importa perché non vogliamo fare qui filologia. Il punto è di dire che lui vuole presentare la sua concezione del diritto come una terza posizione, che vede il diritto non come preliminare rispetto alla volontà democratica, né un prodotto della volontà democratica, che potrebbe pure non produrlo affatto se gli girasse in un altro modo, ma lo vede invece come complementare. Co-originarietà vuol dire questo, complementare. Cioè, se noi, vediamo se trovo la citazione, vediamo se si trova la citazione, sì, né la sfera dell'autonomia politica dei cittadini viene preventivamente ristretta da diritti naturali o morali che aspettano solo di essere messi in vigore, né l'autonomia privata del singolo individuo diventa strumentalizzabile agli obiettivi della sovranità popolare. Due cose soltanto: la prassi di autodeterminazione dei cittadini, cioè la volontà democratica, si trova come prefissata, e queste due cose sono il principio di discorso da un lato, cioè il principio che è valido normativamente, è quello che si può generalizzare a tutti nel corso di un discorso in condizioni ideali, che è la discorsivizzazione del tema kantiano della generalizzabilità attraverso l'imperativo categorico. E la seconda cosa è il medium giuridico del diritto, cioè fatemelo tradurre in un lessico altro completamente, che è il lessico di John Searle, un teorico del linguaggio, degli atti linguistici e più recentemente anche delle istituzioni sociali, il quale ha distinto regole costitutive e regole regolative. Immaginiamo il semaforo o il divieto di sosta, sono emblemi che segnalano delle regole regolative, nel senso che regolano un comportamento che esisterebbe comunque. Noi gireremmo per le strade comunque anche se non ci fosse il codice della strada, solo con più rischio per la nostra incolumità. Invece le regole degli scacchi sono regole costitutive, non regolative, perché non è che noi passiamo il tempo a muovere pezzi di legno su una scacchiera e poi vengono come il semaforo le regole a disciplinarci. Quelle regole creano un gioco che non esisterebbe senza quelle regole, diversamente dal semaforo o dal divieto di sosta. Allora, torniamo al nostro dilemma della volontà democratica e del rapporto con i diritti. Che rapporto è? Sono regole regolative o sono regole costitutive? Possiamo pensarli come regole costitutive, cioè se vogliamo giocare un gioco democratico, così come se vogliamo giocare a scacchi, noi dobbiamo giocare secondo quelle regole che comprendono quei diritti. Quindi sono complementari, noi, io non posso dire, non posso lamentarmi, non ha senso che io mi lamento che nel gioco degli scacchi sono limitato dal fatto che la torre si muove solo in verticale e orizzontale, perché non posso muovere la torre in diagonale? È una limitazione della mia libertà, non ha alcun senso questa cosa, perché è una regola che costituisce il gioco. Allo stesso modo i diritti e la volontà democratica. E poi c'è una parte in cui deduce dei diritti dallo schema del discorso. Qui dico semplicemente sul punto del discorso, termine che ricorre continuamente, è un modo di coordinare l'azione, di generare intendimento, di generare accordo, che si fonda sullo scambio delle ragioni in condizioni ideali e sotto un principio che nell'82 era chiamato principio di universalizzazione U, qui in fatti e norme viene chiamato principio del discorso D, il quale principio ci dice: sono valide solo le norme d'azione che tutti i potenziali interessati potrebbero approvare partecipando a discorsi razionali. Che è la discorsivizzazione in qualche modo dell'imperativo categorico. Allora, da questo principio del discorso, sono valide solo quelle norme che tutti potrebbero in condizioni ideali, senza coercizione, approvare, seguono una serie di diritti che dobbiamo presupporre. Io questo ve lo risparmio per rapidità, perché ma sono è il catalogo, diciamo, è l'insieme dei diritti che vengono. A un certo punto questa deduzione si interrompe ed entra la volontà democratica, cioè oltre un certo punto di diritti fondamentali, gli altri diritti, noi abbiamo il diritto di sciopero, per esempio, che non figura in altre costituzioni, quello lì non si deduce da nulla, quello è volontà democratica, mentre altri diritti sono deducibili dal nucleo teorico. Accanto a questo, fin qui abbiamo parlato di diritti, un accenno invece, andando più avanti, alla politica e alla democrazia, perché non c'è solo diritto in questa costruzione di una società liberal-democratica complessa. La politica e la democrazia. Allora, lì distingue Habermas tra il potere comunicativo di derivazione arendtiana e il potere amministrativo dall'altro lato. E il punto se guardiamo questa costruzione di una società liberal-democratica complessa oggi, il punto del rapporto tra potere e democrazia è la trasformazione aiutata, è un'altra sfaccettatura della funzione del diritto, è la trasformazione del potere comunicativo dei cittadini che si trovano insieme a codeterminare una volontà, la trasformazione di questo in potere politico, in autorità politica legittima. E qui Habermas ci dà la sua versione della separazione dei poteri, che è curiosa, è uno dei punti su cui ragionare, non so se Stefano interverrà su questo punto, però è uno dei punti che io trovo, è uno dei punti su cui che trovo degni di considerazione, perché dei tre poteri classici, due stanno allineati, il potere legislativo e il potere giudiziario, stanno allineati con due grandi fattispecie del ragionamento normativo. Il momento legislativo si correla, diciamo, alla formulazione di norme, quali sono le norme moralmente giuste, e il potere giudiziario si collega al momento della applicazione delle norme. La norma è stata applicata bene, con giustizia, secondo giustizia, sì, no, arbitrariamente, è la giusta norma che va applicata o un'altra e così via. Il potere esecutivo in questo quadro dove sta? Non c'ha un aggancio altrettanto forte con questa bipartizione intuitivamente evidente nella sfera pratico-morale di dire quali sono i principi giusti e due dire come si applicano. il terzo non ci sta bene. Allora, sul potere esecutivo, Habermas nel capitolo dedicato a questo lo accosta moltissimo a un potere amministrativo. Deve essere ovviamente separato dal potere legislativo, deve essere non in grado di dettare a se stesso le proprie regole, deve ricevere le regole da qualcun altro, e quindi il punto della separazione è vincolare l'esercizio del potere amministrativo a un diritto democraticamente statuito, in modo che il potere amministrativo esecutivo si rigeneri solo a partire dal potere comunicativo prodotto dai cittadini, cioè leggi, Parlamento. Il potere comunicativo dei cittadini, che è all'origine, diciamo, si trasforma attraverso i meccanismi istituzionali di rappresentanza nel potere di fare le leggi, e poi in qualche modo interviene un momento di esecuzione, di amministrazione, che deve stare dentro quei canali. Un'amministrazione, leggo da pagina 228, circoscritta ai discorsi pragmatici, che è quello che il governo, l'esecutivo fa, non a caso viene usato il termine amministrazione, non deve permettersi di intervenire né di spostare nulla. Allora, uno dei punti qui su cui riflettere è questa tecnicizzazione dell'aspetto esecutivo. È difficile, ci vuole non so, un microscopio per capire dove finisce il potere esecutivo nel senso politico, di indirizzo politico di un esecutivo, nell'impianto del testo di Habermas, e dove comincia la burocrazia, l'amministrazione. Perché questa idea che non deve permettersi né di intervenire né di spostare nulla, e poi in un altro punto nel famoso post-scritto Habermas chiama il potere esecutivo intrinsecamente tecnico, è qualcosa che forse va compreso nel contesto tedesco. Anche noi abbiamo avuto fino a un certo momento una vicenda simile di estrema diffidenza nei confronti degli esecutivi. Però questo è uno dei punti problematici, perché ridurre l'esecutivo a una burocrazia significa sottovalutare l'aspetto che il mandato non è solo l'esecuzione di mettere in pratica quello che il Parlamento dice, questa è una parte, ma c'è anche avere a che fare con le emergenze che si verificano inevitabilmente, curare del bene della comunità politica durante le emergenze di un mandato, sul versante economico, sul versante purtroppo terroristico, su tutti, sul versante naturale, climatico, terremoti, no? Tsunami, eccetera, tutto quello che può verificarsi e che non può ridursi a burocrazia, cioè a esecuzione di qualcosa. Di qualcosa che è già prefissato, per non parlare del fatto che gli esecutivi spesso, nel contesto delle democrazie moderne, adesso la Germania è iperparlamentare come il nostro ordinamento, però spesso sono anche momenti simbolici direttamente eletti dai cittadini nelle situazioni presidenziali, che sono ampiamente democratiche altrettanto, e spesso hanno un carattere identitario, diciamo sono il punto su cui si identifica un paese più che il Parlamento, che spesso è diviso invece in maggioranza e opposizione, no? Quindi non ha quella capacità simbolica di catalizzare l'attenzione della cittadinanza, nel senso positivo del termine, non nel senso cesaristico, però nel senso positivo del termine. Quindi la riduzione di questo esecutivo a una burocrazia è uno dei punti problematici. Ancora, dimmi sempre quando vado a sfondare, perché voglio. Ok, grazie. Perché voglio alla fine dire due cose critiche. Accanto a questo c'è nel discorso sulla democrazia il fondamentale capitolo sulla sfera pubblica, e che riprende il testo del 62, e qui La democrazia, il funzionamento di una società democratica non può ridursi a a uno schema di norme sulla carta, diciamo, o ingegneria istituzionale. Ha bisogno di una vita comunicativa vibrante. La quale vita comunicativa, altri autori hanno enfatizzato l'aspetto dell'ethos democratico, cioè del costume, del radicamento delle istituzioni nel costume. Habermas enfatizza questo aspetto della comunicazione, che però è anonima, cioè è mediata da grandi media, non è comunicazione faccia a faccia, scendere in piazza a fare una manifestazione, quello c'è anche, ma non è l'unico aspetto. La sfera pubblica è quel luogo simbolico dove si forma l'opinione pubblica. È un luogo che è dove vive un pubblico di pubblici, un pubblico che si interroga intorno a ciò che conviene alla cittadinanza, da punti di vista che certe volte sono molto particolari. Siamo al bar sport il lunedì mattina e discutiamo che cosa ha fatto un certo allenatore, come ha disposto la formazione in una partita, come è andata. C'è una microsfera pubblica che si occupa dell'evento sportivo, solo di quello, non si occupa di altro, e che dura lo spazio del lunedì. E già il giovedì ha preso un altro indirizzo, e oppure sfere pubbliche di cittadini che si occupano della politica del governo, che scendono in piazza, che manifestano, o ancora che semplicemente scambiano opinioni anche in fori come questo, in cui stiamo discutendo di che cos'è una società democratica nel contesto più ampio di una società complessa contemporanea. Anche questo è un pezzo di sfera pubblica in cui mettiamo a confronto le nostre opinioni. La sfera pubblica al singolare è un pubblico di pubblici, cioè l'insieme di tutto questo che avviene nella società, e da questo punto di vista non è una istituzione, non è una organizzazione, non è una associazione, non è un sistema nel senso della teoria dei sistemi. È piuttosto una rete, leggo adesso da pagina 427, una rete per comunicare informazione e prese di posizione, insomma opinioni. In questo processo i flussi comunicativi sono filtrati e sintetizzati in maniera da convogliarsi in opinioni pubbliche relative a temi specifici. Che cosa è importante di questo? È importante uno che ci sia, perché se non c'è, manca lo sfondo su cui quell'evento iconicamente centrale di ogni democrazia, andare a votare, avviene nel vuoto, se non c'è dietro questo rigoglio di scambio di ragioni e opinioni. Inoltre ha una funzione di controllo sui gestori della cosa pubblica, sul famoso esecutivo e anche sul Parlamento, cioè anche sul momento legislativo. Ha una funzione di dire che cosa è urgente, che cosa nella società si reputa importante per l'ordine del giorno, su cui si dovrebbe decidere, e ciò che invece non lo è. In questo luogo simbolico che è la sfera pubblica operano diversi tipi di attori. Usando la metafora del teatro, dice Habermas, alcuni vengono dalle quinte, cioè sono degli abituè dello spettacolo, sono i poteri forti che parlano nel teatro dal palcoscenico, ma il più interessante di tutti sono quelli che emergono dalla platea, che alzano il dito, vengono e pongono un tema all'ordine del giorno, danno un insieme di ragioni. Pensiamo a vicende come tutta la tematica ambientale. Tutta la tematica ambientale non è nata dai poteri forti, è nata dal pubblico che ha pressato i poteri forti, vuoi economici, vuoi legislativi, a fare qualcosa su questo, sul cambiamento climatico anche su altri temi. Quindi parecchi cambiamenti originano da lì. È importante anche comprendere il limite della sfera pubblica, che è anche il limite oggi tra un'idea habermasiana di democrazia molto forte e partecipata e un'idea che potremmo chiamare populista di democrazia, cioè l'idea Il limite è che la sfera pubblica non può ambire a governare, a dare input di governo, a indirizzi di governo ai pubblici forti, che sono quelli che poi devono prendere le decisioni vincolanti per tutti, decisioni legislative, decisioni governative, esecutive e decisioni giudiziarie. Non può farlo, non può governare, può controllare, può dire non mi va bene, può reagire. Può dire va fatto qualcosa su questo punto e quindi metterlo all'ordine del giorno, ma non può governare. E salto la parte sul pluralismo, vorrei chiudere sì, con, con due osservazioni critiche. E due osservazioni critiche. Una è sul punto normativamente centrale di questa costruzione, che è questo principio di del discorso, cioè l'idea che legittimo normativamente e sono quelle norme che a cui tutti gli interessati potrebbero su cui tutti gli interessati potrebbero convenire in condizioni di assenza di coercizione, ovviamente senza che nessuno sia costretto. E io trovo che qui, in questo centro normativo della costruzione, c'è un residuo di ambiguità che dà problema. E cioè questa idea di convenire, accettare le conseguenze dell'applicazione generalizzata di una norma, è un'idea che può essere specificata in due modi molto, ma molto diversi. Un primo modo è un modo, se vogliamo un termine, aggregativo, cioè dire noi qui valutiamo la bontà di una norma vedendo, anticipando mentalmente le conseguenze della sua applicazione e ciascuno di noi singolarmente dice mi vanno bene queste conseguenze prevedibili, non ce n'è nessuna che contrasta con le mie preferenze. Questa è una versione aggregativa che ha come pregio il fatto di distinguere bene tra discorsi di giustizia, discorsi su cui è presente una garanzia di consenso in condizioni idealizzate, da invece discorsi riguardo a che cosa dobbiamo volere, cosa è bene per noi, che qual è il nostro possibile progetto di vita politica insieme, cioè l'aspetto etico della sfera pratica su cui invece è questione di scelte esistenziali. Questo modo di porre il test di generalizzazione distingue bene questi due principi, però non è discorsivo per niente, perché se io dico che l'accettabilità della norma poggia sul suo conformarsi nelle conseguenze alle mie preferenze, non c'è niente di discorsivo. Io possiamo qui dentro tutti mettere in un computer le nostre preferenze a lista, poi per ogni norma vediamo se si genera conflitto o no con tutte le nostre preferenze listate. L'altra interpretazione del principio centrale di è quella che dice vabbè, andiamo olisticamente a vedere che mondo verrebbe fuori dall'applicazione di una certa norma che vogliamo e se noi possiamo ancora riconoscerci in quel mondo. È una versione più plausibile perché ci vuole il discorso, cioè ci vuole, non lo si può sapere a priori, non c'è una lista di preferenze e di conseguenze da confrontare per vedere se ci sono contraddizioni, ci vuole effettivamente un discorso tra i partecipanti, però questa versione non ci consente di dire qui ci sono problemi di giustizia, qua ci sono problemi di applicazione o problemi intorno a che cosa riteniamo bene, perché ovviamente se noi ci riconosciamo in un dato mondo o no frutto dell'applicazione della norma dipende dalla nostra concezione del bene, quindi le due cose sono legate. Questo è una ambiguità che Habermas si porta dietro in tutta la costruzione normativa. L'altra è che il naturale, o con questo è l'ultima considerazione, l'altra è che il naturale termine di paragone di questa idea di liberal democrazia per noi è l'idea rawlsiana che avrete visto in Teoria della giustizia, poi completata in Liberalismo politico di Rawls, che è un'idea di potere legittimo profondamente dualistica. Non l'ha inventato Rawls, ma anche qui ha dato il suo nome a qualcosa che ha inventato un altro, che è Bruce Ackerman, cioè l'idea che la legittimità dell'autorità nelle nostre società è un qualcosa che non può poggiare sul consenso dei governati, così come lo vedeva John Locke o come lo vedeva Rousseau. Non può poggiare su questo, perché le nostre società sono troppo complesse per qualcosa del genere. Per cui il principio di legittimità che è al centro del pensiero liberale dall'altro lato dell'oceano è questo principio di Rawls della liberale legittimità, che ci dice: noi esercitiamo il potere politico nella nostra società esercitato legittimamente quando esercitato in armonia con una Costituzione tale che di questa Costituzione gli elementi essenziali sono accettati da tutti per ragioni di principio, dove per ragioni di principio si oppone a ragioni di prudenza, per paura di che succede se non sono d'accordo, per ragioni di principio, perché sono giusti. Questo schema qui, che è dall'altro lato dell'oceano, bipartisce nelle società democratiche nostre la funzionalità del consenso democratico, nel senso che il consenso validante, quello dei cittadini, è sul nucleo essenziale della Costituzione. Tutto il resto, cioè quello che produce il Parlamento, quello che fa il governo, le sentenze dei giudici, che si trasformano in potere coercitivo poi giù per l'irame a un certo punto, sono legittime solo finché qualcuno non le dichiara incostituzionali, ma non hanno bisogno del nostro consenso attivo. Nel fatti enorme non c'è una metabolizzazione vera e propria di questo, non so se privatamente forse lo condivida, ma nel libro non c'è traccia di questa grande rivoluzione con liberalismo politico negli anni 90, nel 93. Sono coevi, i due testi sono assolutamente coevi, 92 fatti enorme, 93 liberalismo politico. Non c'è traccia di questo in Habermas, per cui sembra che se voi dovete mettere un senso unico in Corso Vittorio Emanuele, perché questo sia legittimo, ci vuole il consenso in condizioni idealizzate di tutti quelli che sono influenzati da questa decisione, che è un modello francamente problematico per una società complessa come la nostra. Non è solo giusto in teoria e poi difficile in pratica, è qualcosa di più, è un modello che prevede una convergenza motivazionale degli attori su tutti questi punti, che è qualcosa che crea difficoltà a pensare una società democratica pluralista. Sarebbero tante altre cose, ma io mi fermo qui e mi scuso se sono andato oltre. Grazie. Sì, esatto. Cioè, gliel'ho già presentato, quindi passo la parola. Sì, grazie, anch'io ringrazio molto dell'invito a essere qui e comincio, diciamo così, con una nota un po' per interrompere la teoreticità del discorso. Si sta smontando la scrivania, ma non importa. Allora, quando appunto ci siamo sentiti con Sandro, perché oltre a essere colleghi siamo soprattutto amici, quando ci siamo sentiti con Sandro la mia prima idea è stata di dire: beh, ma dividiamoci i capitoli dell'opera, uno fa 1-4, l'altro fa 5-8, e Sandro dice: ma secondo me non è necessario. E in effetti aveva perfettamente ragione, perché ogni sguardo, poi su un'opera così ampia, diciamo, ogni sguardo poi coglie in un certo modo, quindi anche senza essersi messi d'accordo in nessun modo, vedo che ci sono poche sovrapposizioni in quello che andiamo a dire, anche se appunto non ci siamo messi d'accordo e anche se la pensiamo in modo molto simile. Quindi questo è, insomma, tanto per cominciare. E la mia lettura, insomma, su che cosa vorrebbe fare Perno? Beh, innanzitutto io direi due cose. Si tratta di un'opera filosofica. Questo pone dei problemi, perché il discorso, il lavoro di Habermas è un lavoro che sta, diciamo, tra filosofia, sociologia, politologia e tante altre cose. Ma dal mio punto di vista non possiamo, cioè, rimane molto povero se gli togliamo, diciamo così, il nerbo filosofico. Ma quando ho detto questo ho già purtroppo toccato un problema, perché lo stesso Habermas ha, diciamo così, con la sua filosofia, tra virgolette, un rapporto tutt'altro che semplice, anzi un rapporto molto complicato, perché è, diciamo così, un filosofo che non crede all'autonomia della filosofia dagli altri saperi, è un filosofo che cerca di sciogliere o di far interagire la filosofia con gli altri saperi, cosa molto bella da un certo punto di vista, ma anche foriera di problemi e talvolta di ambiguità e di oscurità, perché purtroppo le logiche dei discorsi sono distinte, la logica del discorso filosofico, sociologico, politologico sono delle logiche distinte, bisogna poi saperle far interagire e questo, insomma, non è facile. Ecco, però, diciamo, se non ci fosse lo sfondo filosofico che fa, ripeto, la complessità, la difficoltà e anche la problematicità dell'opera, beh, se non ci fosse lo sfondo filosofico, diciamo, sarebbe un politologo come un altro, quindi sarebbe alla fine abbastanza poco interessante. Allora, qual è questo sfondo filosofico? A mio modo di vedere, lo potremmo definire, forzando un pochettino, come una impostazione di chiaro cognitivismo morale, e cioè l'idea che sta alla base del principio del discorso, che vi è stato già esposto da Sandro, e quindi non ve lo ripeto, sono valide tutte quelle norme che gli interessati potrebbero approvare partecipando a discorsi razionali. Allora, l'idea che sta alla base del principio del discorso è che le questioni pratiche sono razionalmente discutibili e decidibili. Se non c'è questo, crolla tutta la baracca. Chiaro? Allora, questo Habermas lo dice molto bene in un passo che vale la pena di citare, quando dice: introdurre un principio di discorso equivale a presupporre che le questioni pratiche possano essere imparzialmente giudicate e razionalmente decise. Ora, questa tesi è una tesi filosoficamente fortissima, nel senso che il 99% della filosofia contemporanea, ivi compreso in molti altri testi Habermas stesso, non ci crede. Questo è il punto. Cioè, è una tesi molto forte. C'è l'idea di una razionalità e di una decidibilità delle questioni pratiche. Cioè, che quando discutiamo se una certa norma sia giusta o non sia giusta, possiamo portare argomenti razionali, ovvero possiamo in qualche modo decidere che un argomento è migliore di un altro. Non siamo sul terreno di un confronto, diciamo così, politeistico o pluralistico, dove ogni opinione ha la sua legittimità. Certo, tutte le opinioni devono confrontarsi, hanno tutte la loro legittimità, ma ci deve essere una decidibilità, perché altrimenti non si capisce che parliamo a fare. Cioè, se non ci fosse la possibilità di vagliare quali sono gli argomenti migliori e quali quelli peggiori, non sarebbe tutto un tempo perso portare argomenti. Si direbbe: a me piace così, io voglio l'eutanasia, tu non la vuoi, punto, ciao, poi andiamo a votare. Ma non è così, va bene? Allora, questo è il punto di partenza teorico. C'è una, diciamo appunto, razionalità discorsiva, c'è una decidibilità delle questioni pratiche. C'è quello che io chiamo un terreno, quindi, di cognitivismo morale. E, anche se, come vi dicevo, Habermas è sempre un autore che sfugge. Allora, dopo aver detto questo, cioè che discorso razionale equivale all'idea che le questioni pratiche possano essere imparzialmente giudicate e razionalmente decise, quindi che si possa razionalmente vedere i buoni argomenti, miei e tuoi, che ci siano dei modi per decidere, dopo aver detto questo, però, scivola anche su un terreno un pochino più moderato e cioè dice, beh, però forse da un punto di vista puramente teoretico si può anche mettere in discussione la decidibilità delle questioni pratiche, è anche possibile dubitarne, è possibile non crederci, ma in quanto uomini che viviamo dentro un continuo interscambio di ragioni tra noi, non possiamo rinunciare alla decidibilità delle questioni pratiche. Quindi è la decidibilità delle questioni pratiche è qualcosa che, come diciamo soggetti appartenenti a una comunità sociale, eccetera, non possiamo mettere da parte, anche se forse un filosofo puramente astratto la potrebbe mettere in discussione. Ecco, allora, su questa base si pone appunto il principio del discorso, che già è stato ricordato da Sandro, cioè quel principio che afferma che le norme valide in generale sono quelle che attraverso delle quali attraverso un discorso razionale noi appunto potremmo riconoscere la validità. Ma questo punto di partenza, cioè una concezione di che cosa sono le norme valide, si dirama subito in due direzioni, e cioè nella distinzione tra norme morali e norme giuridiche. Perché ci sono l'idea generale della norma raccoglie, diciamo, fondamentalmente due tipi di norme: le norme morali e le norme giuridiche. Le norme morali sono quelle che noi possiamo applicare se ne siamo convinti, se ci va di farlo, non sono collegate ad una sanzione, cioè ad una punizione se non le applichiamo, come sono invece le norme giuridiche. Le norme giuridiche sono molto diverse perché appunto sono fondamentalmente collegate a una punizione. Chi ruba rischia la galera, chi diciamo così tradisce un amico non rischia nulla. Questa è una differenza fondamentale tra le norme morali e le norme giuridiche. E quindi quello che regola appunto la nostra convivenza sono per l'appunto le norme giuridiche, ma il principio a cui fanno riferimento è il medesimo, cioè il principio di argomentare intorno alla validità di una certa norma. Dopodiché ci sarà un'argomentazione intorno alle norme morali e ci sarà un'argomentazione intorno alle norme giuridiche. Qual è la differenza? Che l'argomentazione intorno alle norme giuridiche è un'argomentazione istituzionalizzata. Quindi Habermas dice che dal principio del discorso, quello appunto richiamato più volte e perfettamente da Sandro, discendono due principi derivati, diciamo così, e cioè da un lato il principio della moralità, che appunto dice che sono, che in sostanza ripete il principio del discorso, e dall'altro il principio del diritto democratico o della democrazia, il quale dice, cito: possono pretendere validità legittima solo le leggi approvabili da tutti i consociati in un processo discorsivo a sua volta giuridicamente costituito. Cioè le norme giuridiche sono frutto di un discorso, sì, ma di un discorso istituzionalizzato, cioè che si svolge, diciamo, con regole a loro volta giuridicamente fissate. Le norme giuridiche sono il frutto di un discorso che si svolge con regole giuridicamente fissate, che dicono appunto che ci sono, che le norme vengono fatte da un Parlamento, che i parlamentari vengono eletti attraverso determinate procedure, che la discussione parlamentare si svolge in un certo modo, che una volta arrivati all'approvazione di una legge questa deve essere promulgata, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, firmata dal Presidente della Repubblica, eccetera. Quindi una norma giuridica risulta, dice Habermas, sempre da un processo discorsivo, perché appunto nel Parlamento si discutono le leggi che vengono poste in approvazione, eccetera. Ma un processo discorsivo che non è come il processo discorsivo, diciamo così, della morale, un processo libero, io penso che una certa cosa sia giusta, tu pensi che non lo sia, ma un processo discorsivo istituzionalizzato e che dà luogo a delle conclusioni, quindi che diventano appunto norme giuridiche vincolanti. Allora, qual è il rapporto tra... La questione complicata è qual è il rapporto tra la dimensione della moralità e quella della giuridicità. Perché? Perché, come ricordava Sandro all'inizio, Habermas vuole, diciamo così, evitare che la dimensione della norma giuridica sia gerarchicamente subordinata a quella della norma morale, così come vuole evitare che il diritto positivo sia subordinato al diritto naturale. Quindi non c'è prima la giustezza di norme morali e poi quella di norme giuridiche che in qualche modo dipende dalla giustizia delle norme morali. Habermas vuole porre le norme morali e le norme giuridiche sullo stesso piano, appunto, sono piani differenziati, lui dice anche complementari, ma nessuno ha superiorità gerarchica, entrambi appunto sono di pari valore gerarchico. Ecco, questo però comporta alcune questioni. Perché? Perché quando Habermas ci spiega quali sono le buone ragioni che devono essere addotte quando si discute intorno alla validità di una norma giuridica che noi vogliamo approvare, bene, dice, si possono addurre vari tipi di ragioni, ma le prime ragioni che devono essere addotte sono ragioni morali, cioè se qualcosa sia in generale giusto o meno. Poi ci sono altri tipi di ragioni, per esempio le ragioni pragmatiche, ovvero sia qualcosa è fattibile o no. Facciamo un esempio. Discutiamo intorno a una norma che introduca il reddito di cittadinanza, no? Allora, il primo punto che noi dovremmo discutere sarà se è giusto conferire a tutti i cittadini, poniamo una forma moderata, a tutti i cittadini che non hanno, diciamo, un reddito minimo da parte della collettività. E allora qui, però adesso non entriamo, no, io adesso facciamo una versione petruccianesca del reddito di cittadinanza, va bene? È solo un esempio, è solo un esempio. Allora, poniamo il caso, no? Ecco, allora, uno dice, è giusto? E si pongono questioni di giustizia. Per esempio, è giusto retribuire chi non si è impegnato sufficientemente per cercare un lavoro e dargli lo stesso un reddito? Alcuni diranno sì, altri diranno no, e si aprirà tutto un lungo contenzioso, una discussione su ciò che è giusto e ciò che non lo è. Una discussione da un punto di vista universale, generale, che la possiamo fare oggi in Italia, la possiamo fare in un altro paese domani. E il punto di vista della moralità, il punto di vista del se qualcosa sia considerato da un punto di vista imparziale e universale giusto o meno. Poi si apre, per esempio, per arrivare a una norma giuridica, si apre il discorso della fattibilità, cioè le ragioni pragmatiche. Ma ci sono i soldi per farlo? Non ci sono? Come si fa? Come non si fa? Ecco, allora nel processo di formazione delle norme giuridiche le ragioni morali hanno un peso determinante. Anzi, Habermas dice che le norme giuridiche non possono contraddire le norme morali, cioè ciò che è moralmente giusto. Una norma giuridica valida non può contraddire ciò che è moralmente giusto, ma al tempo stesso dice che la moralità e la giuridicità stanno su uno stesso identico piano di validità, che non c'è una superiorità gerarchica della morale rispetto al diritto. Allora, la mia obiezione è che queste due cose non possono stare insieme, nel senso che se è vero che le norme giuridiche non possono contraddire ciò che è moralmente giusto, allora è vero che, mentre non è vera la reciproca, cioè che le norme morali non possono contraddire ciò che è giuridicamente valido, allora i due discorsi non stanno sullo stesso piano, ma c'è, anche se Habermas non lo vuole riconoscere, un primato del moralmente giusto sul giuridicamente valido, che, io dico, vive nella cosa stessa, diciamo così, nel testo stesso di Habermas, anche se lui si sforza di negarlo il più possibile, perché gli sembra una visione vetero-platonica, vetero-filosofica, quella, o appunto giusnaturalistica, quella che fa dipendere la validità delle norme giuridiche da una giustezza morale, diciamo così, che starebbe a monte di esse. Però in realtà ci ricasca pienamente, ed è difficile non ricaderci, che appunto ci ricade pienamente, perché lui stesso poi dice che le norme giuridiche non devono contraddire le norme morali. Quindi, diciamo, il primo aspetto di questa architettura habermasiana, quanti minuti ho? Ancora il primo stesso. Un quarto d'ora. Quanto? 10? Anche 20 minuti. Ah, allora perfetto. Allora, il primo aspetto di questa architettura habermasiana è, c'è un principio del discorso, poi c'è un'idea della moralità e un'idea della giuridicità che stanno tra loro in un certo rapporto, che Habermas vuole rapporto, diciamo, di parità, e che, a mio modo di vedere, non è rapporto di parità, ma è comunque superiorità del giusto morale sul valido giuridicamente. L'ulteriore passaggio, diciamo così, è quello di vedere come si arriva appunto alla al processo di formazione delle norme giuridiche. Allora, per dar luogo a questo processo istituzionalizzato di formazione delle norme giuridiche, i cittadini devono organizzarsi in una comunità, appunto, giuridica, cioè devono, dice Habermas, riconoscersi reciprocamente dei diritti. Quindi, per poter, diciamo, legiferare, bisogna che ci sia una comunità giuridica che si deve organizzare in qualche modo, e quindi i cittadini si devono riconoscere reciprocamente dei diritti. Questi diritti, e qui è altro tema che appunto toccava Sandro prima, questi diritti formano sistema, cioè una comunità politica democratica che legifera democraticamente e forse razionalmente si basa su un sistema di diritti che i cittadini si riconoscono reciprocamente. Quali sono le principali categorie di diritti? O meglio, quali sono le categorie di diritti che non possono mancare in una comunità giuridica democratica? Bene, innanzitutto bisogna che ci siano diritti che stabiliscono chi appartiene al demos e chi non appartiene. Questo è fondamentale, perché se ci deve essere una comunità democratica ci deve essere un demos. Chi ne fa parte? Questo bisogna che delle leggi lo stabiliscano. Chi è nato in un certo posto, chi parla una certa lingua, chi è arrivato da una certa parte, eccetera. Quindi, primo, definire il demos, diritti di appartenenza al demos. Secondo, diritti personali, diritti della persona, diritti privati. Terzo, diritti politici, cioè di partecipare alla formazione della volontà politica attraverso organizzazione di partiti, manifestazioni, pubblicazioni, votazioni, eccetera, eccetera. Quarto, diritti di agire in giudizio per la difesa dei propri diritti, quindi diritti di andare dal giudice per difendere eventuali diritti negati. Quinto, quelli che Habermas chiama diritti di ripartizione sociale, ovvero diritti sociali, che sono, diciamo così, un po' la cenerentola nel sistema habermasiano dei diritti. Perché? Perché Habermas ritiene che tutti gli altri diritti siano, diciamo così, fine a se stessi, cioè se c'è una comunità politica democratica dobbiamo avere i diritti politici, dobbiamo avere i diritti personali, dobbiamo sapere chi e con quale diritto fa parte del demos e dobbiamo avere qualcuno di fronte a cui far valere i diritti se vengono violati, quindi un giudice. Ecco, i diritti sociali invece non sono fine a se stessi, secondo Habermas, ma sono funzionali al godimento degli altri diritti. Quindi sono quella che io, diciamo, un po' polemicamente chiamo una categoria cenerentola, perché non sono un bene in se stesso, ma dobbiamo avere dei diritti sociali perché altrimenti il godimento degli altri diritti, cioè politici, civili, eccetera, sarebbe insufficiente o rischierebbe di essere insufficiente, perché se uno non ha lavoro, non ha da mangiare, eccetera, poi non potrà fare partecipazione politica, non potrà andare dal giudice e tutte queste cose qua. Quindi questo è, a mio modo di vedere, un approccio un po' limitativo di Habermas al tema dei diritti sociali. Perché? Perché la sua idea è fondamentalmente una idea appunto procedurale di democrazia, cioè il patto democratico è il patto che i cittadini stringono per darsi determinate procedure, ma non contenuti. E qui appunto è molto diverso, e qui molto diverso dal John Rawls, dal primo John Rawls, cioè dal John Rawls di teoria della giustizia, per il quale invece la ripartizione dei beni sociali è uno dei contenuti, degli aspetti principali del patto sociale, che infatti nella teoria della giustizia di Rawls è preso di mira in quello che Rawls chiama il secondo principio di giustizia. Il primo sono le libertà e i diritti, diciamo, formali, procedurali, il secondo sono diritti sostanziali a godere dei beni sociali, eccetera, eccetera. Questo non c'è in Habermas, questo tipo di approccio, perché c'è un approccio più squisitamente procedurale, cioè i diritti riguardano le procedure, il modo in cui ci si rapporta, si comunica, si legifera, eccetera. E i diritti sociali sono funzionali, diciamo, che i soggetti abbiano quelle basi vitali necessarie per poter poi partecipare a tutto il resto, ma non sono un fine in se stesso della comunità politica. Cioè la comunità politica non ha come fine quello di assicurare, diciamo così, questi aspetti, ma lo ha in modo mediato o secondario. Ecco, punto fondamentale, sul quale vado velocissimo perché è già stato toccato da Sandro, è quello che i diritti personali, diciamo così, non devono essere i diritti privati, i diritti liberali, i diritti di libertà negativa, chiamiamoli come vogliamo, non devono essere intesi come un limite a ciò che le maggioranze democratiche possono fare. Cioè non c'è in Habermas, c'è la volontà di contrastare questo approccio che invece è largamente dominante, per cui si dice, vabbè, da un lato c'è la democrazia con le maggioranze, poi c'è il rischio che le maggioranze sforino e vadano a invadere i diritti privati, e allora c'è i diritti liberali come limite a quello che le maggioranze possono fare. Ecco, Habermas, come ha già spiegato Sandro, ma mi limito a ripeterlo molto velocemente, dice no, le cose non stanno così, perché i diritti di libertà personale, eccetera, sono costitutivi del cittadino democratico, e quindi non puoi diciamo, dire che la democrazia è in antitesi con questi diritti, perché anzi questi diritti sono quelli che la sostituiscono, che la sorreggono, la formano, sono costitutivi di una comunità democratica, né più né meno che i diritti della maggioranza, e quindi vanno visti sinergicamente, in modo complementare, eccetera, non come limiti a ciò che le maggioranze non possono fare, ma come condizioni perché si possa costituire una volontà democratica discorsivamente mediata della maggioranza dei cittadini. Ecco, quindi sistema dei diritti. Dopodiché la cosa interessante e peculiare, come già diceva Sandro, è la visione, diciamo così, duale del processo democratico che caratterizza Habermas, cioè la democrazia si compone fondamentalmente di due aspetti che sono nettamente distinti. C'è, diciamo così, la sfera formale e giuridicamente istituzionalizzata, e c'è la dimensione, diciamo così, tra virgolette, informale della sfera pubblica e dell'opinione pubblica. Queste sono, come dire, le due gambe sulle quali cammina la democrazia. Da una parte ci sono le campagne elettorali, i partiti, i parlamentari, le discussioni parlamentari, le votazioni, gli organi costituzionali, eccetera. Dall'altra parte c'è appunto la sfera pubblica, che va dalla conversazione tra amici alla pubblicazione dei giornali, o agli strumenti di comunicazione, alle manifestazioni, gli scioperi, tutte le forme, diciamo, di manifestazione del proprio pensiero. Ecco, questi due, la democrazia secondo Habermas è, diciamo, fatta in questo modo, ha queste due gambe che sono essenziali per il suo funzionamento. Quindi, però, il problema è capire come si rapportano, diciamo, questi due aspetti, no? Cioè la sfera pubblica non giuridicizzata, diciamo, e invece la sfera politica istituzionalizzata, va bene? E questo è un problema complesso. Perché? Perché chiaramente la tesi di Habermas è che una democrazia ben funzionante è quella dove il rapporto è messo in un certo modo. Cioè, una democrazia ben funzionante è quella dove il sistema politico, diciamo così, è permeabile, oppure, come dire, ricettivo rispetto a quello che c'è nell'opinione pubblica, e impermeabile rispetto, diciamo così, all'influsso dei poteri non comunicativi, ma dei poteri sociali forti, per esempio economici, eccetera. Quindi un sistema politico non condizionato, quindi impermeabile ai poteri sociali forti, e invece ricettivo alla opinione pubblica, dalla misura della virtuosità, diciamo così, del meccanismo. Invece un sistema politico chiuso, diciamo, sordo a quello che succede nell'opinione, incapace di elaborare quello che viene dall'opinione pubblica, e invece permeato dai poteri economici mediatici, dà, diciamo così, la misura del circolo vizioso, di ciò che, del polo negativo, diciamo così. La democrazia, nel modo in cui la pensa Habermas, è un sistema aperto ad entrambe queste possibilità, cioè alla possibilità, diciamo, virtuose e alle possibilità viziose, perché dipende un pochino da quello che i cittadini ci fanno dentro la democrazia, da come agiscono dentro la democrazia. È possibile, diciamo così, una deriva viziosa ed è possibile un circolo virtuoso. Ecco, ma soprattutto la questione, diciamo, che per lui è molto molto importante è che è, diciamo così, che nella sfera del dibattito pubblico, appunto, qui mi ricollego a quello che dicevo all'inizio, deve essere possibile raggiungere qualcosa come una buona qualità argomentativa. Il dibattito pubblico non può essere, non può ridursi a qualcosa di semplicemente, diciamo, manipolativo e ipocrita. E perché questo? Chi l'ha detto? Cioè, quali sono le garanzie, diciamo, che il dibattito pubblico abbia e conservi una certa qualità, che non si riduca semplicemente alla manipolazione che coloro che possiedono appunto gli strumenti di influenza operano rispetto ai cittadini che non li possiedono? Insomma, questo è un tema molto complicato, perché la visione habermasiana della democrazia, diciamo, punta tutto sulla sfera pubblica, dal libro del 62, insomma, no? E lì il centro è lì, cioè la buona democrazia è una buona sfera pubblica. Ma allora, chi ci garantisce, nel momento in cui appunto ci sono le concentrazioni mediatiche, ci sono tutta una serie di problemi grossi, chi ci garantisce, diciamo, questa qualità del dibattito pubblico? Come dire, qui, insomma, Habermas sostiene un po' un punto di vista appunto teorico, filosofico, cioè, diciamo che la sfera pubblica per Habermas non può mai ridursi a essere del tutto impermeabile ai buoni argomenti, alle buone ragioni, ma per il fatto stesso che è il linguaggio umano, probabilmente, che resta comunque, permeabile ai buoni argomenti e alle buone ragioni, cioè la capacità, diciamo, di scambiarsi quelle che Habermas chiama pretese di validità, fa tutt'uno con il linguaggio stesso. Se fosse data la possibilità della pura manipolazione, diciamo così, cioè di trasformare appunto gli attori umani in, diciamo così, automi manipolabili, beh, sarebbe gli stessi presupposti di base del linguaggio che crollerebbero. Quindi, diciamo che la sfera pubblica deve essere pensata come qualcosa che può in vari gradi, diciamo così, essere manipolato, influenzato, avere una bassa qualità, eccetera, ma non può mai essere pensato come totalmente privo di ricettività alle buone ragioni, perché è la stessa, diciamo, razionalità e linguisticità umana che contiene l'elemento della ricettività alle buone ragioni. Quindi una certa ricettività alle buone ragioni è sempre elemento proprio della sfera pubblica. E naturalmente poi questo si sposa con una serie di considerazioni più empiriche, cioè una buona sfera pubblica, per esempio, è quella dove c'è la stampa di qualità. Habermas ancora, diciamo, crede molto nel ruolo della stampa di qualità come l'elemento che può veicolare, diciamo così, una discussione di buon livello, insomma, nella sfera pubblica. Pensa che questo sia un fatto centrale: stampa indipendente e stampa di qualità sono un elemento che dà forza, diciamo, alla possibilità di avere una buona sfera pubblica. Ecco, ma quello che è, insomma, interessante, anche abbastanza difficile da mettere a fuoco, è che c'è da una parte il sistema politico e dall'altra la sfera pubblica. Allora, la sfera pubblica, diciamo così, resta esterna al sistema politico, come dire, deve restare esterna, secondo Habermas. Ma questo modo di vedere che cosa comporta? Comporta, a mio avviso, diciamo così, la rinuncia a pensare, diciamola in modo molto semplice, la riforma del sistema politico. Perché? Perché l'importante è che il sistema politico sia ricettivo, diciamo così, a quello che succede nella sfera pubblica, che va per conto suo. Quindi, per esempio, i partiti non sono un tema, sono un tema che è completamente silenziato, no? Ma perché? Perché appunto, qui sarebbe una questione complicata, poi sentiamo magari anche che ne pensa Sandro, che forse ci può aiutare a sciogliere questo nodo. Il problema qual è? È che, insomma, Habermas in una certa fase della sua vita è stato molto influenzato dalla sociologia sistemica di Niklas Luhmann, dove la società è pensata come, diciamo, un insieme di sottosistemi, ognuno dei quali ha la sua autoreferenzialità, diciamo, riproduce se stesso. Allora, il sistema politico, il sottosistema politico, in qualche modo, diciamo così, è una dimensione chiusa in se stessa. Però quello che si può fare è con una buona sfera pubblica costringerlo, diciamo, da fuori a prendere atto che ci sono per esempio dei problemi che vanno risolti, no? Ecco, ma non c'è un nesso diretto, diciamo, sovranità dei cittadini, sistema politico, secondo me. C'è una visione appunto di un qualcosa che può essere fondamentalmente, che poi questo era il discorso che lui faceva anche in teoria dell'agire comunicativo, che può essere fondamentalmente, diciamo, condizionato dall'esterno. Quindi il problema è avere una buona sfera pubblica che dall'esterno condizioni il sistema politico. Non è, perché non c'è questo, non è quello di... Quindi per esempio ci si pone il problema appunto di come devono funzionare i media, di difendere la grande stampa di qualità, di contrastare i monopoli e tutte cose giustissime. Però non c'è invece un discorso su come si possa o si debba, diciamo, riformare la democrazia, riformare il sistema politico, riformare i partiti. Perché non c'è? Perché secondo me appunto è dato in qualche modo per scontato che questo sia un sistema, diciamo, chiuso nei suoi meccanismi, e dall'esterno, però possiamo fare molte cose dall'esterno e sperando che le orecchie del sistema politico ci ascoltino. Questo è, secondo il mio punto di vista, la sua visione. Quindi, per esempio, ecco, una questione come quella dei partiti è completamente assente, no? Perché? Perché i partiti invece dovrebbero essere proprio la cerniera, diciamo, tra i cittadini e il sistema politico. Allora, questa cerniera non funziona, è evidente, no? La credibilità di questo meccanismo sta al minimo, diciamo, se interroghiamo le persone, se si fanno dei sondaggi demoscopici, eccetera, la credibilità di questo meccanismo è al minimo, no? E allora che cosa fa Habermas? Probabilmente dà per scontato che lasciamo perdere, cioè ci sono questi partiti che fanno il loro mestiere, dopodiché se alla lunga non sentono quello che accade nella sfera pubblica, se non sono ricettivi, se non elaborano proposte, eccetera, che siano in sintonia con quello che accade nella sfera pubblica, la gente poi cambia, vota altro, ma non c'è il tentativo, diciamo così, di ricostruire, come dire, una cinghia di trasmissione della sovranità popolare, perché probabilmente a questo la sovranità popolare, poi lo dice lo stesso Abraham, la sovranità vive in un gioco complesso, non può essere pensata come un meccanismo, secondo lui, come un meccanismo che va dal cittadino appunto al partito, al Parlamento, eccetera. No, vive in un gioco complesso, da una parte c'è il sistema politico, dall'altra la sfera pubblica e dall'altra ci sono i poteri sociali che cercano di condizionare il sistema politico. Dal gioco di questi elementi, se non diventa un gioco vizioso ma se rimane un gioco virtuoso, viene fuori, diciamo così, in qualche modo la sovranità popolare. Quindi questo mi sembra, diciamo, una peculiarità che forse è anche un limite del pensiero habermasiano. Mi avvio a concludere. Questo mi sembra un limite, come anche, diciamo così, insomma, c'è un limite, quindi, a mio modo di vedere, nella come dire, rinuncia a prendere quello che invece è per molti di noi, insomma, credo, un tema importante, cioè la crisi della rappresentanza politica democratica. Perché? Perché fondamentalmente, credo, poi ripeto, voglio sentire che ne pensa Sandro, voglio sentire che ne pensa Sonia, fondamentalmente è una battaglia data per persa, cioè quelli fanno il loro mestiere, però se noi ci agitiamo molto, facciamo manifestazioni, giornali, grandi riflessioni, eccetera, alla fine questa roba non potrà non essere sentita dal sistema politico, il sistema politico non potrà non essere ricettivo, oppure qualora non sarà ricettivo, appunto poi i cittadini cambieranno, si daranno altri politici, si faranno altre cose. E poi l'altro aspetto, insomma, che mi sembra critico è quello che riguarda appunto il rapporto tra sistema, diciamo, politico e poteri sociali, cioè anche qui c'è il rischio, diciamo così, che appunto il sistema politico diventi impermeabile alle esigenze dei cittadini e sensibile a quelle, diciamo così, dei poteri sociali forti. Ma una volta denunciato questo rischio, che cosa si fa? Allora, c'è bisogno di ragionare sul fatto che certe concentrazioni, per esempio, di potere economico sono una minaccia per la democrazia, oppure no? Cioè, bisogna arginare, diciamo così, l'invadenza dei poteri economici sulla politica democratica con meccanismi giuridici, ma bisogna forse anche ripensare appunto quel tipo di economia? Ecco, questo anche è un tema che, diciamo, resta molto molto silenziato, come dire, nella riflessione di Habermas. E anche qui io vedo, diciamo, un limite di un discorso che, ripeto, giudico molto interessante, ma anche non privo di limiti e di problemi. E qui mi fermo, grazie. Sicuramente l'esecutivo, cioè quella visione dell'esecutivo, questo mi ricollego anche all'altro intervento, è una visione molto stilizzata del ruolo dell'esecutivo, perché non dobbiamo pensarlo in senso autoritario, come diciamo per riflesso siamo portati a fare, dobbiamo pensarlo anche in un senso espansivo. Pensiamo a tre grandi presidenze americane, quindi tre grandi esecutivi, la cui opera politica si è sintetizzata nello slogan del New Deal per Roosevelt, la nuova frontiera per Kennedy, The Great Society, la grande società e la guerra alla povertà nell'amministrazione Johnson. Lì c'è inventività da parte dell'esecutivo, cioè c'è un raccogliere un'istanza espressa elettoralmente intanto in primo luogo, anche un avvalersi di legislazione fatta dal Congresso e dal Parlamento, e però c'è inventività politica nel dare a questo, perché noi ci ricordiamo queste di presidenza, non ci ricordiamo Carter, francamente, non ci ricordiamo, ci ricordiamo negativamente altri, Reagan per esempio, ma ci sono le presidenze grigie di cui nessuno si ricorda. Nixon, chi se lo ricorda? Se lo ricorda per Vietnam, anche Johnson in realtà, però quella è la differenza. Ci sono presidenze grigie di cui non si ricorda nessuno, e altre dove presidenza lì è particolarmente profilato, però abbiamo esecutivi anche noi nel quadro puramente parlamentare. Una cosa è il centro-sinistra programmatico 63-68, no? Quel centro-sinistra con e altra cosa sono i governicchi balneari che si avvicendavano. Sono due modi diversi di fare l'esecutivo. L'esecutivo di Craxi è un esecutivo nel bene e nel male che è protagonista, che interpreta un certo modo di essere anche quello di Spadolini, e così via, e mi fermo lì, diciamo, per restare su un terreno da prima, però c'è una bella differenza. Per non parlare del punto delle emergenze, cioè nell'intervallo di 5 anni o 4 tra due elezioni ne succedono tante di cose sullo scenario mondiale, sia politico sia economico, e non è che la funzione del Parlamento può essere quella di fare la legge ad hoc per la congiuntura che si produce. Può essere quella di dare linee guida, ma l'interpretazione della congiuntura, di quello che è bene per il Paese in quel momento, è una funzione che non può essere burocratizzata, cioè lo trovo riduttivo l'idea della burocratizzazione. E tra l'altro, se nel quadro sistematico habermasiano, qui mi riaggancio un attimo a un discorso che faceva Stefano prima del gettare la spugna sui partiti, cioè del dire vabbè, fanno parte del sistema in qualche modo, nella dicotomia sistema mondo della vita che era teoria dell'agire comunicativo e che ancora continua a essere presente nella mente di Habermas, e quindi non vengono messi a tema, e se incrocio questo punto che sollevava giustamente Stefano con il ragionamento che stiamo facendo, si nota la tensione tra il fatto che se le campagne elettorali e il protagonismo politico è qualcosa di sistemico, di fatto da figure, ma allora perché il Parlamento deve essere meglio del governo, scusa? Se il Parlamento, che è il luogo dove questi attori partitici si guadagnano i seggi con le elezioni e poi fanno i loro accordi, le maggioranze, eccetera, perché quello dovrebbe essere programmaticamente meglio del governo se c'è quella visione lì? Un punto di frizione interna. Sul cognitivismo morale sì, c'è sicuramente, è stato sfumato nel corso degli anni, c'è un punto di fatti enorme in cui Habermas addirittura dice in certe condizioni di società complesse persino le questioni di giustizia possono non avere, sta a pagina 196 nella traduzione, dice, possono non avere certezza di una cognitiva, di una garanzia, di una posizione imparziale vera e giusta, poi non ne trae le conseguenze di questo che dice a una certa pagina, perché quello è, diciamo, un discorso sovversivo sistematicamente all'interno delle sue cose. E l'imparzialità è un punto fondamentale. E per cui Habermas appartiene agli autori normativi e appartiene agli autori che ritengono che non ci può essere una società se non condividiamo un metro, quello che Rawls chiama una concezione politica della giustizia, o se non condividiamo un metro per valutare le questioni fondamentali di legittimità dell'esercizio del potere, eccetera, eccetera. Non può esserci, cioè, se ogni classe, lei parla di classi, però se ogni classe o ogni etnia si fa il suo metro, noi non abbiamo più una società democratica possibile. Sì, sulla garanzia della persona e l'aspetto della garanzia della persona indubbiamente è al centro. In questo Habermas non rende giustizia a Rousseau, che fu il primo a stagliarsi nel quadro del contrattualismo dell'epoca. Pensiamo a Hobbes, che era di più di 100 anni prima, e di Locke, il quale invece vede il punto essenziale distintivo del suo contrattualismo, del suo contratto sociale, come il fatto che mentre gli altri due ci propongono questo quadro di una cessione di una libertà prima illimitata nello stato di natura e che poi viene ceduta in toto in Hobbes, in parte in Locke, per ricavarne il vantaggio della sicurezza in Hobbes e di altre e della certezza del diritto in Locke, in Rousseau c'è l'ambizione del dire l'individuo nel contratto che disegno io, Rousseau, resta libero come prima. Questo è il miracolo, resta libero come prima, e questo è il punto rousseauiano che vive dentro l'impianto habermasiano, vive dentro l'impianto habermasiano senza che gli sia veramente riconosciuto. E ancora una battuta: Habermas e Kelsen è importante, l'aveva sollevato, sì. Habermas è molto complesso questo discorso, perché certamente condividono una cosa. Condividono, assieme al loro comune antenato Kant, a cui si rifanno, nume tutelare, condividono un progetto procedurale, il formalismo. Cioè l'idea che parlare di giustizia, parlare di norma giusta, significa stare alla larga dai contenuti e porre semplicemente un criterio di come si fa la norma giusta, non metterci il contenuto, dire questo è giusto e questo è giusto e questo è ingiusto, ma semplicemente ragionare sulla procedura, il che li espone all'obiezione schmittiana, che è l'altro grande tema del Novecento, del dire tu contrabbandi un contenuto dietro quella apparente formalità e neanche hai il coraggio di assumerti la responsabilità politica di questo valore che stai ponendo. C'è questa idea di una, il che, siccome lei citava il paragone con Rawls, teoria della giustizia, è un punto che il normativismo dall'altro lato dell'oceano non ha mai digerito, pur essendo Rawls un autore neocantiano anche lui, cioè anche lui combatte contro ogni utilitarismo, ogni conseguenzialismo e vuol fare una teoria deontologica della giustizia, però non prende mai quel progetto proceduralista, formalista di Kant, che diventa il proceduralismo kelseniano e anche habermasiano. Lui dice no, il problema della sostanza etica, quello che Schmitt chiamava il politico, il problema di questo non è che ci sia, il problema è che è controverso. Allora, se noi troviamo una sostanza etica trasversale alle divisioni, per esempio la dignità della persona o alcuni diritti, eccetera, troviamo un contenuto, una sostanza etica trasversale alle divisioni politiche, quello è sostanza etica, quindi non è formalismo, non è proceduralismo l'istituzionalizzare quello, e però non è problematico. E il rapporto con Rawls di teoria della giustizia è lungo queste linee. Cioè Habermas, infatti, è enorme, se prendete le pagine di commento a Rawls, non ha metabolizzato liberalismo politico, perché erano, come dicevo, coeve, più o meno forse si scambiavano, ma non credo che avessero grandi rapporti. Il rapporto è nato nel 95, dopo, a successione di queste due opere. Cioè qualcuno disse a Rawls: guarda che c'è questo che ha scritto sto libro in Germania, questo gli deve fare i conti. E quindi nacque dopo il dialogo, ma non prima. E questo qualcuno essendo Frank Michelman. E allora, nelle pagine di Habermas, cosa si rimprovera Rawls? Si rimprovera Rawls non il normativismo, che è certamente condiviso, ma si rimprovera di aver passato il segno, cioè di essere andato a fare il lavoro che devono fare i cittadini in un quadro procedurale, diciamo, kelseniano, cioè a dire: primo principio di giustizia, uguali libertà; secondo principio di giustizia, tu Rawls, da filosofo, hai fatto il lavoro che devono fare i cittadini. Il compito tuo di filosofo, cioè mio di Habermas, è quello di tracciare il quadro dentro cui quello che i cittadini decideranno è normativamente vincolante. Poi saranno i cittadini a dare i due principi, questi o altri principi. Quindi lo accusa di sostanzialismo, fondamentalmente, di non essersi tenuto sul versante procedurale. Questo è il modo in cui lui vede il rapporto con Rawls. Naturalmente ci sarebbe molto di più da dire, ma qui ci fermiamo. Ecco, sì. Allora, qualche commento anche da parte mia sulle cose che sono state dette. Dunque, per quanto riguarda il primo interlocutore, diciamo, quello che faceva riferimento alla società divisa in classi, ma insomma, a mio modo di vedere, diciamo, sicuramente il tema della società divisa in classi è sottodimensionato, molto sottodimensionato in Habermas. Poi magari non direbbe società divisa in classi, ma insomma, il tema, diciamo, dei contrasti degli interessi sociali è certamente sottodimensionato. Però dove sta il punto realmente interessante e, a mio modo di vedere, anche sostanzialmente ineludibile? Sta nel far giocare insieme questi due registri, cioè quello che io proprio provocatoriamente dico, quello del discutere razionalmente e imparzialmente da una parte e quello della società divisa in classi dall'altra. Cioè, se noi ci perdiamo uno di questi due pezzi, allora, a mio modo di vedere, tanto vale che ce ne andiamo a casa, nel senso che non abbiamo più niente di molto interessante da dire, perché possiamo fare una sociologia della società divisa in classi che lascia completamente il tempo che trova, oppure possiamo fare, diciamo così, un ragionamento puramente astratto sulla giustizia che lascia il tempo che trova. Ecco, quello che invece bisogna cercare di fare è fare giocare insieme questi due aspetti, cioè cercare di tirare fuori dei criteri, appunto, di giustizia che siano razionalmente condivisibili e al tempo stesso avere anche un occhio attento a quali sono, diciamo, le grandi divaricazioni sociali, eccetera. Perché questo è il discorso interessante, cioè come si sviluppa una dinamica tra queste due dimensioni. Insomma, quando il buon Carlo Marx parla di sfruttamento, che cosa fa? Fa un discorso discutibilissimo sul modo in cui funziona l'estrazione del plusvalore nella produzione capitalistica, ma fa anche un discorso, anche se lui non lo voleva ammettere, di condanna di un sistema dove l'uomo è sfruttato, dove l'uomo è ridotto a mezzo per la produzione del capitale, eccetera, eccetera. Quindi dove, diciamo così, c'è un appello a determinati valori che vengono calpestati nello sfruttamento dell'uomo sull'uomo che c'è nella società capitalistica, che è brutto perché da un certo punto di vista, cioè su un ragionamento di giustizia che ci dice che, per esempio, tutti gli uomini hanno diritto a essere ugualmente rispettati, eccetera, questa roba non va bene. Allora, se togliamo quello, casca pure quell'altro, secondo me. E noi dobbiamo essere capaci, ed è molto difficile, di tenere insieme, diciamo, sempre due piani del discorso, cioè un piano più ancorato, diciamo così, alle contraddizioni della realtà e un piano più ancorato alla possibilità di ricercare dei principi o dei criteri che possano essere condivisibili, che possano essere degli strumenti di giudizio sulla realtà, no? Ecco, strumenti che, appunto, anche in autori antimoralisti come Marx di fatto ci sono, anche se non vengono, diciamo, sbandierati ai quattro venti, però ci sono, operano, come operano in Habermas quando dice ciò che è giusto è quello che appunto tutti attraverso un discorso, un ragionamento imparziale eccetera potremmo riconoscere. Ma ecco, il problema è, a mio modo di vedere, non perdersi nessuno di questi due aspetti, perché se ce li perdiamo il nostro discorso, diciamo, sulle contraddizioni della dinamica sociopolitica diventa molto meno interessante. E per quanto riguarda il secondo intervento, diciamo che Habermas non parla di comunità, anzi la sua formula, insomma, se volete una formula ossimorica, cioè abbastanza contraddittoria forse, è quella di solidarietà tra estranei, no? Cioè assolutamente, diciamo, modernamente individualisti, ma anche solidali, no? Allora, queste due cose come stanno insieme? Insomma, il tentativo, stanno insieme perché dovrebbero stare insieme perché ci si riconosce, diciamo così, come appunto membri di una collettività democratica. Ma questo che cosa significa? Significa che comunque dobbiamo dare un certo ascolto alle ragioni degli altri, non dobbiamo solo scontrarci, diciamo appunto, come classi contrapposte o come interessi contrapposti, ma appunto finché parliamo un certo ascolto alle ragioni degli altri è difficile che non lo diamo, diciamo, c'è sempre un residuo di ragionevolezza, perché altrimenti non, appunto, non parleremo neanche più. Partiti, Kelsen, allora normativismo, insomma, direi che intanto riprenderei il filo appunto del discorso teorico, cioè c'è una grande, diceva giustamente Sandro, sono entrambi degli autori proceduralisti, poi con enormi differenze. Per esempio, la grande differenza è innanzitutto sul terreno epistemologico, perché Kelsen sostiene che, diciamo, la filosofia della democrazia è il relativismo. Invece Habermas sostiene che la filosofia della democrazia, diciamo, è un fallibilismo discorsivo, cioè, che cosa voglio dire con questa forma? Cioè, è l'idea che, come nella scienza, anche nella politica, discutere non è inutile, ma serve forse a trovare delle soluzioni migliori o a far vedere che ci sono delle proposte che sono sbagliate. Quindi, come nella scienza, discutere serve a scartare le teorie che non vanno bene in maniera da che si affermino delle teorie migliori, così anche nella discussione politica c'è un certo valore epistemico, cioè discutere fa venir fuori delle visioni migliori rispetto a quelle che avevamo prima e forse anche delle soluzioni migliori rispetto a quelle che avevamo prima, tenendo conto però, e questo è l'aspetto che Habermas sottovaluta, che questa discussione è anche appunto fatta in un contesto di forte contrapposizione degli interessi, quindi è e non è una discussione, no? Però è e non è una discussione, è una discussione per certi aspetti libera e ragionevole, per altri aspetti molto condizionata dagli interessi, le due cose, nessuno dei due aspetti può essere, diciamo, buttato via, perché appunto poi i buoni argomenti camminano, eccetera, anche. Quindi, diciamo, sono due filosofie molto diverse, se nell'ambito, diciamo, restando in un comune proceduralismo, sono due filosofie molto diverse. Secondo me, Kelsen, per un verso, diciamo così, è un relativista dei valori, come lo è Weber, quindi da questo punto di vista è totalmente incompatibile con una visione come quella habermasiana, che è opposta, diciamo, rispetto a un relativismo dei valori. Poi naturalmente il relativismo di Kelsen è un relativismo che si oppone alle visioni assolutistiche, alle visioni appunto che cercano una base in una verità assoluta. Quindi, diciamo, Kelsen enfatizza il momento del relativismo. Io dico così, scherzando, che se avesse conosciuto il postmodernismo forse sarebbe stato molto più cauto sul definirsi come relativista, e forse si sarebbe definito pure lui fallibilista, perché quello è il relativismo della scienza, che non è relativismo, perché per la scienza diciamo così, lo stregone e il medico non sono la stessa cosa, quindi relativismo manco per niente, fallibilismo sì, moltissimo, ma relativismo no. Allora, quando Kelsen scriveva negli anni 20 poteva fare l'elogio del relativismo, oggi non credo che farebbe l'elogio del relativismo, penso che farebbe un discorso un po' diverso, restando però comunque fedele alla tesi di fondo, e cioè quella che sui valori, diciamo così, non c'è possibilità di mettersi d'accordo razionalmente, perché i valori sono weberianamente affidati a un politeismo. E l'altro aspetto ancora interessante in questo paragone che è venuto fuori Kelsen Averroes, poi lo dico perché abbiamo in programma una discussione su Kelsen qui con amici che sono presenti, quindi sarà interessante, è quello dei partiti, no? Perché Kelsen, per esempio, ritiene che l'esistenza, diciamo, politica del cittadino si dà in quanto ci sono dei partiti che convogliano, raccolgono l'opinione e la trasformano e la portano al sistema politico, insomma. Ecco, Habermas invece è tutto il contrario, no? Cioè, la sua è una democrazia tutta centrata su questa informalità della sfera pubblica, no? E appunto chi ragiona kelsenianamente, come oggi appunto Ferraioli, che ha appena fatto uscire questo bel libro sulle 10 aporie di Kelsen, dice, beh, allora qui bisogna pensare alla riforma dei partiti, un tema essenziale, lo sapete poi anche in questa sede, no? È stato molto discusso e presentato, cioè se c'è una crisi della democrazia, pensiamo tra le priorità alla riforma dei partiti. Chi ragiona con Habermas dice no, pensiamo a come, diciamo, i flussi d'opinione possono circolare bene, quindi pensiamo in primo luogo a contrastare magari i monopoli mediatici, pensiamo appunto a difendere la stampa di qualità in cui si discute a un livello elevato, eccetera eccetera. E sempre però appunto nell'ambito comunque che hanno in comune un Kelsen e un Habermas, che è quello di una visione procedurale che si contrappone, quella di Habermas in modo particolare, appunto diceva già Sandro, si contrappone a mio modo di vedere a quella di John Rawls, che è una visione molto più sostanziale. Allora, qual è il problema? Come si esce da questa contrapposizione? Beh, insomma, non lo so, io penso che bisogna ritornare a riflettere appunto sui grandi autori della modernità del contrattualismo politico, e il, diciamo così, tema del, cioè su quali sono, diciamo, le basi del patto sociale, no? Allora, le basi del patto sociale possono essere puramente procedurali, oppure diciamo che nella storia del, insomma, del pensiero politico moderno, questo è un tema molto complesso, perché per appunto si comincia con un Hobbes che dove al patto sociale chiediamo soltanto la garanzia della sicurezza, quindi lo Stato, diciamo, poliziotto, no? Ci basta quello, poi si chiede sempre di più. Allora, è possibile oggi pensare un patto sociale come fa Habermas, cioè dove quello che ci interessa è fissare le regole di una, per quanto discorsiva, democrazia procedurale, oppure, diciamo così, nei fondamenti del patto sociale c'è appunto l'esigenza della giustizia sociale, c'è l'esigenza dello sviluppo umano, Sen e compagnia bella, cioè è, a mio modo di vedere, diciamo, qui andrebbero appunto ripensati i fondamenti del patto sociale dopo tutta l'esperienza della filosofia politica moderna, e credo che oggi non abbia molto senso pensare un patto sociale in maniera puramente procedurale. Per questo il successo, diciamo, e l'affermazione che ha avuto un Rawls con la teoria della giustizia, dove gli elementi sostanziali stanno dentro le clausole di base del patto sociale e non arrivano soltanto dopo, che è appunto invece la critica che gli fa Habermas, come ricordava Sandro, cioè la ripartizione, la giusta ripartizione dei beni sociali, poi se la vedranno i cittadini, insomma. Rawls dice no, non è così, insomma. Quando andiamo a costituire una comunità politica vogliamo anche porre dei paletti su quello che è la nostra vita materiale, insomma, quindi quali beni sociali, quali beni principali, come ripartiti, quale misura, quale ineguaglianza è, fino a che punto l'ineguaglianza è sopportabile, fino a che punto no, eccetera. Ecco, credo che questo sia un punto, insomma, importante. Insomma, non è da buttare, no? Quindi non è che questa frattura rivoluzionaria del pensiero del XIX secolo, insomma, pure inquadrata criticamente, insomma, no? Certo, come per ciò che ha avuto, diciamo, di importante, cioè appunto il superamento, diciamo, di una metafisica in ultima istanza teologizzante, ma anche per ciò che ha avuto che oggi va rimesso in discussione, insomma. Quindi su questo appunto Habermas ha delle posizioni abbastanza particolari, no? Se vuoi, perché qui un commento anche a quello che diceva appunto la nostra coordinatrice Katia, perché lui, diciamo, lavora con questa distinzione, infatti enorme, in modo particolare lavora con la distinzione tra etica e morale. Allora, morale, ciò che è universalmente valido, potremmo anche dire giusto, ovvero il punto di vista morale è il trattamento imparziale degli interessi in gioco, diciamo il trattamento imparziale degli interessi di tutti, delle pretese di tutti, e etico, ciò che è buono per noi, no? Ecco, allora, la distinzione secondo me è utile, nel senso che appunto è sensato filosoficamente distinguere, diciamo così, ciò che non dobbiamo fare agli altri, di questo si occupa la morale. Allora, tradire, disprezzare, sfruttare, no? Queste sono cose che, diciamo, generalmente un punto di vista morale condanna, no? E distinguere quindi questo, no, da l'altro discorso, appunto, e cioè quali sono i fini che meritano di essere perseguiti e quali sono le modalità per sviluppare in modo positivo una personalità umana, eccetera. Questo è il discorso, diciamo, dell'etica, ovvero della vita buona, insomma, c'è, cioè, una diversa domanda: qual è un buon modo di vivere, no? È meglio la vita attiva, la vita contemplativa, diceva Aristotele, no? Noi avremmo altri problemi, insomma, ovviamente, no? Ma quindi è interessante, secondo me, riprendere, diciamo, la distinzione tra due questioni, no? Sono questioni di come è meglio vivere, no? E ci sono questioni di cosa non devi fare agli altri, fondamentalmente, no? Ecco, quindi, vabbè, dopodiché, dove sta il problema? Che, allora, Habermas però fa un'operazione complicata su questo, perché innanzitutto non vuole che appunto la dimensione giuridica dipenda da quella della morale universalista, non solo non vuole che dipenda dall'etica, e su questo qui ha perfettamente ragione, come dire, ma non vuole manco che dipenda da quella della morale universalista, e lì invece io un po' lo critico, perché dico che lui la fa dipendere e non la fa dipendere al tempo stesso, va bene? Dopodiché, per quanto riguarda il problema, diciamo, delle ragioni etiche nella politica e nella legislazione, lui dice, poiché stiamo parlando appunto di legislazione, quindi di attività collettive, dice l'etica si occupa di ciò che è buono per noi, ma questo, no, secondo me, messa in questi termini, la questione diventa molto poco gestibile, molto poco trattabile. Perché? Perché appunto sto noi chi è? Questo non è facile, cioè, per esempio, appunto, una, diciamo così, insomma, qui le cose si complicano, perché appunto che significa è buono per noi, noi chi, per esempio, per quali sono le questioni, questo poi è un punto che anche Sandro ha toccato spesso, insomma magari adesso lo potrà riprendere meglio lui, quali sono le questioni effettivamente etiche? Certo, è chiaro che credo che Katia abbia perfettamente ragione quando dice che comunque la volontà di non far dipendere, diciamo così, l'elemento, il momento giuridico da quello morale è, perché altrimenti, diciamo così, uno potrebbe dire, vabbè, ma se dipende da una morale, allora chi ha un'altra morale non lo riconosce. Siccome il diritto deve essere riconosciuto da tutti e deve vincolare tutti, bisogna che non dipenda da nessuna morale. Deve essere altra cosa, diciamo così. Ha tante connessioni, ma non è gerarchicamente subordinato, perché allora chi non crede in nessuna morale, chi crede in altre morali, che fine fa, no? Se il diritto è qualcosa che fa capo alla fine a un certo tipo di morale, no? Quindi l'istanza di sganciare da ogni dipendenza il diritto, da ogni dipendenza dalla dimensione della moralità, ha le sue buone ragioni da un certo punto di vista, però appunto una moralità, diciamo, ridotta al, diciamo, rispetto di tutti gli interlocutori, eccetera eccetera, beh, insomma, possiamo sganciare il diritto anche da questa moralità essenziale, diciamo così. Qui io non lo credo, insomma. Ecco, e poi tu dicevi, giustamente, no, sono perfettamente d'accordo con te sul fatto dell'elemento, certo, i due momenti, quello, diciamo, della creazione appunto di istituzioni, per esempio di istituzioni europee, la Costituzione, e quello della, altrettanto importante, sfera pubblica europea, quindi partiti europei, quindi è possibile una sfera pubblica europea senza una lingua europea, eccetera eccetera. I due momenti sono effettivamente, credo, inscindibili. La peculiarità di Habermas sta nel fatto che dà un grande peso a quello della sfera pubblica, diciamo che per altri, per esempio appunto un classico come Kelsen, vabbè, sì, certo, ci deve essere il libero dibattito, poi tutto il resto è molto più importante, insomma, no? Vabbè. Ah, sì, scusa, spengo questo. Ah, ok, ecco. E allora, anche qui tanti, dunque, tanti temi. E cominciamo da quello della Costituzione. E i principi di base sono già nella Costituzione, a un certo punto è stato detto, le Costituzioni riflettono. Bisogna distinguere in questo, nel senso che noi abbiamo un'individualità delle Costituzioni. Quindi un nucleo comune che ricorre nelle varie costituzioni di paesi democratici, Freedom House ne ha contati 86 nell'ultimo rapporto del 2016, 86 prima del colpo in Turchia, prima del controcolpo in Turchia, diciamo, della risposta di Erdogan al colpo di Stato in Turchia. Comunque. Quindi questi 85 paesi e 86 democratici che hanno delle costituzioni, qualcuno non scritta, hanno un nucleo comune, che sono dei diritti che rispondono a principi, ma in tante altre cose sono diversi, e in questo essere diversi lì si riflette una sostanza etica, quindi, che non è solo formalismo, cioè la Repubblica fondata sul lavoro ce l'abbiamo solo noi. E che è una grande cosa, diciamo, la spiegò il presidente Saragat a un certo punto, dicendo: sono tutti bravi a elencare la proprietà tra i valori da difendere, però perché ci sia la proprietà ci vuole il lavoro che la pone in essere. Già, classicamente dentro uno dei padri fondatori. Esatto, dentro uno dei padri fondatori del liberalismo, la proprietà, il diritto naturale alla proprietà poggia sul lavoro, quindi è lì l'idea che la Repubblica è fondata sul lavoro, perché prima che si possa parlare di... Allora, quella è intuizione etica, sostanza etica che è tradotta in diritto, ma non risponde a un principio che si possa in qualche modo derivare da una nozione filosofica come quella del discorso, del principio di generalizzazione o qualunque altro principio. No, è un'intuizione, una Sittlichkeit nel lessico hegeliano, un'eticità che noi abbiamo, o l'articolo 3, che in questa sede giustamente è da qui alle sue radici, è l'idea di un compito della Repubblica Repubblica, di una responsabilità della Repubblica nel rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo della persona, questa è un'intuizione nostra, che in altri posti non si sognerebbero minimamente di mettere. Allora, quello è il punto in cui il diritto affonda le sue radici nella morale, nell'intuizione etica, cioè noi pensiamo che è giusto. Io credo che qui in questa sala non c'è uno che dice chi lo sa, no, pensiamo è giusto che la Repubblica, l'insieme, si faccia carico di rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo delle persone. Qualcuno avrebbe detto che era comunismo, che era legato a una, ma è sopravvenuto, però non è stato così. È rimasto, questo è esattamente, è un punto che ci fa riflettere, perché delle tre grandi culture che nella narrazione nazionale concorrono alla Costituzione, una certamente soffre, quella marxista, dentro gli sviluppi successivi, ma nessuno è andato ad attaccare questo punto. Quindi sì, però nessuno ha avuto il coraggio di metterlo in questione, del dire ognuno se la vede da solo. Non è per nulla compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli. Chi ci riesce, bene. Chi ci riesce, bene. Chi non ci riesce, resta indietro. Questo è privatamente pensato da tante e da tante forze politiche, ma nessuno ha il coraggio di dirlo. Nessuno ha il coraggio di dirlo. Allora, lì tocchi il punto dove diritto è, nel senso procedurale del termine, è sostanza etica, cioè quello che individua una comunità, la nostra, rispetto a quella francese o spagnola, che non ha sentito il bisogno di dire questa cosa nella loro Costituzione, e lì tocchi questo legame, sostanziale, che, per generalizzare il punto, fa dire che il vero problema non è la subordinazione del diritto alla morale. Il problema è la subordinazione del diritto a una morale controversa, cioè che è di qualcuno e non di altri, ma non della moralità, della eticità condivisa trasversalmente alle divisioni politiche. Perché certo che nella Costituente, tra Togliatti, De Gasperi e Nenni, certo che c'erano delle grandissime differenze politiche, ma su questo no, sul compito, sull'articolo 3. O sull'Italia fondata, sulla Repubblica fondata sul lavoro, su quello non c'era, quindi sostanza etica che è trasversale alle divisioni politiche. Questo non è un problema, quindi non dobbiamo per forza sposare un criterio, un ideale di procedura, di formalismo del diritto puro, di distacco totale del diritto da questo aspetto etico. Quello che dobbiamo sposare è l'idea di distacco da contenuti etici controversi, che sono di alcuni, di una classe, di un'etnia, di un, per esempio, dei cittadini credenti o dei cittadini non credenti, di una parte dei cittadini rispetto ad altri. E quindi la tripartizione dei poteri, la divisione dei poteri è al servizio dell'implementazione di uno Stato di diritto, e questo Stato di diritto risponde a principi che in una parte sono condivisi con altri quadri politici, sistemi politici o spazi politici, che il termine che voglio, comunità politiche, qualunque sia il termine che vogliamo usare, però per altro verso invece rispondono a contenuti e istanze che sono nostre, specifiche. E anch'io con Laura l'accordo in questo è totale. E penso proprio sullo sfondo di questo discorso che noi possiamo interrogarci. Quindi su presupposti di sostanza, richiamavi la Jeghi sull'interrogazione sulla buona vita, possiamo interrogarci su delle cose, su degli aspetti sostanziali e testare quanto sono condivisi. Possiamo certamente farlo, non dobbiamo stare avere in questo una remora a introdurlo nel discorso democratico, e questo va più, non lo so se va nel senso di Habermas o forse no, non lo so, perché c'è un Habermas filosofo che è iperproceduralista e dice no, il discorso che enuncia che cos'è una società complessa democratica del nostro tempo, deve stare alla larga da questi impegni sostanziali. Ma noi cittadini, sia nella sfera pubblica, ma anche non nella sfera pubblica, nel foro istituzionale dove si prendono le decisioni, noi sì che possiamo confrontarci anche su queste. Sì. Sicuramente sì, cioè viste le prove della politica si può provare a fare di meglio, diciamo, come filosofi. E il collettore, la domanda che veniva su, da questa ebollizione di temi, di contenuti e di cose, di punti, perché quello che fa la sfera pubblica è segnalare cose che vanno poste in agenda, che altrimenti non ci sarebbero se stesse alla dinamica politica sistemica, la protezione dell'ambiente non ci sarebbe, le questioni di genere non ci sarebbero. Dov'è il collettore che li che introduce? E giustamente Habermas qui, come diceva Stefano, i partiti li vede parte del sistema, cioè una specie non c'è un investimento su quello. Se devo interpretare Habermas, direi che negli anni che separano, che della fase successiva a Fatti e Norme, ha molto insistito sul ruolo delle religioni. Il discorso comincia 7-8 anni dopo, cioè i discorsi su fede e sapere, il post secolare, la religione nella sfera pubblica, eccetera eccetera. Questo comincia diciamo 7-8 anni dopo Fatti e Norme. Quindi secondo me in questa sfera pubblica di società complesse lui vede le comunità religiose e il discorso religioso, le chiese, anche come un portatore, non solo qualcosa che tiene in vita queste istanze, che non si riducono al pragmaticamente utile, diciamo, a ciò che ci tiene a galla economicamente, ma tengono in vita questioni di valore. Secondo me lì c'è un qualcosa di questo, oltre che le associazioni, i nuovi movimenti, se ne è sempre occupato in realtà di nuovi movimenti. Nel testo ce n'è poco qui riflesso, però nella pubblicistica di Habermas c'è un interesse sempre ai movimenti sociali. E venendo alla questione dell'Europa, lì c'è anche lì c'è un mutamento, diciamo un aggiustamento del tiro, nel senso che la sfera pubblica è fondamentale ed è quello la cui mancanza azzoppa l'Europa, l'Unione Europea come progetto politico, però Habermas è andato scalando, abbassando il tiro, dall'idea ora denunciata, ora vuol dire 2010, denunciata come utopistica di una sfera pubblica europea, all'idea molto più minimale di sfere pubbliche nazionali che si aprono l'una alle altre. Cioè noi non avremo un Corriere della Sera europeo, un Le Monde europeo, basta che Corriere della Sera, Repubblica, Le Monde, il Paese, eccetera, parlino anche degli altri secondo un'agenda che ha dei tratti comuni, cioè aprano la sfera pubblica nazionale alle suggestioni di altre sfere pubbliche, che è un gradino in meno rispetto all'idea di una sfera pubblica come fosse nazionale ma in grande su scala europea. E ancora citavi questa attenzione a non far entrare l'etica nei discorsi, il superare elementi divisivi. Qui in Habermas andrebbe, ne parlavamo nella pausa con Stefano, si poteva fare un capitolo a parte su Fatti e Norme, Habermas di Fatti e Norme e il pluralismo. Dov'è il punto del pluralismo dentro il testo e quali sono gli elementi di difficoltà rispetto a questo. E citavi il fatto di non portare elementi divisivi dentro il discorso, ma uno dei punti per me ostici nel testo habermasiano relativamente per esempio all'impianto rawlsiano è questa idea che il consenso razionale, che è quello che legittima poi una struttura politica e giuridica giusta, questo consenso razionale che viene dal dire una norma è giusta se viene accettata senza coercizione da tutti i cittadini in condizioni eque, il punto è che queste ragioni per accettare la norma perché il consenso sia razionale e validante ai fini della legittimità, devono essere le stesse ragioni. Quindi in Habermas c'è questo punto oscuro, come dire, questo punto cieco, in cui in società complesse come la nostra lui pone l'istanza molto esigente che il consenso che valida la legittimità delle istituzioni e dell'operato debba essere consenso in base alle stesse ragioni, quando dentro un quadro, diciamo, rawlsiano o di altro tipo, è già tanto che ci sia il consenso. Pensate alla nostra Costituzione, pensate a De Gasperi, Nenni e Togliatti che s'accordano sull'articolo 7, o non s'accordarono. Beh no, alla fine Togliatti disse non possiamo permetterci di trattare la questione come la Francia, disse, non siamo nella situazione della Francia. Quindi alla fine lo accettò su una base un po' prudenziale. Esatto, era più. Però, diciamo, su tanti punti della Costituzione il consenso è per diverse ragioni. C'è il personalismo cattolico, c'è l'idea marxiana, c'è il laicismo, come si dice dopo, in una stagione diversa delle forze laiche. Certo che c'è un ragione. Allora, pretendere che il consenso razionale sia razionale se viene dalle stesse ragioni è qualcosa di problematico al cuore dell'impianto. Ancora parlavi di repubblicanesimo e liberalismo, e due parole solo su questo, perché Habermas, secondo me, nel libro, lo dicevo a proposito di Kant e Rousseau, vale per liberalismo e repubblicanesimo, condivide un difetto del grande Kant. Kant era, secondo me, almeno non è conosciuto come un grande interprete storico dei pensatori del passato, è un grandissimo costruttore di struttura filosofica, ma non è un grande interprete, non gli si conoscono delle grandi interpretazioni di qualche altro filosofo. E Habermas è un po' lo stesso, perché il suo liberalismo e il repubblicanesimo, rispetto a cui lui è la terza via, sono caricature del liberalismo e del repubblicanesimo. Il liberalismo è schiacciato su un liberalismo della mediazione degli interessi, del pluralismo, un liberalismo alla Dahl, alla Robert Dahl, ma non c'è un liberalismo rawlsiano o come quello di Dworkin lì dentro riflesso. Il repubblicanesimo è mezzo repubblicanesimo, perché quello che lui chiama repubblicanesimo è solo l'ala arendtiana, pococchiana, eticizzata del repubblicanesimo. Il repubblicanesimo alla Skinner o al nostro Viroli o altri che hanno fatto un repubblicanesimo deeticizzato, in qualche modo più sul versante del liberalismo, quello non c'è per nulla. E queste sono due tipi di componenti: il liberalismo liberal, per un verso, non quello mainstream, e dall'altro il repubblicanesimo non eticizzato, che dicono le stesse cose di Habermas, quindi non sarebbe una terza via per nulla, è, diciamo, una costruzione del genere. L'ultima, sul giusto e il bene, la separazione del giusto e il bene, nel senso di che cosa uno non deve fare agli altri, il senso del limite, però e il bene è un ragionamento su ciò che vogliamo, però anche lì diciamo la distinzione spesso nelle aree di frontiera, e si comincia dalle aree di frontiera, è difficile tenerla. Cosa non devi fare agli altri è il problema del giusto, però cosa non devi fare agli altri? Non li devi tenere in vita loro malgrado, nonostante tutto, a forza? E proviamo a pensare la discussione sul giusto, scissa da un'idea della vita umana, e il che riporta al punto della norma accettabile per tutti. Possiamo accettare tutti la norma in qualche modo se abbiamo delle coordinate sul bene che non sono troppo distanti, forse questo è un altro ragionamento. Nella ricerca del vantaggio, ma assomiglia al mercato nel senso che è parte della definizione di un mercato che nessuno lo domina. Se qualcuno lo domina, è in grado di fare i prezzi come gli pare, non è un mercato. Allora, una sfera pubblica dove un gruppo di attori egemonico impone i suoi temi non è più una sfera pubblica. Questo è il... Sì, sì, Sì. Ma è un precipitato, cioè non è un progetto, è un precipitato. È un, non, c'è il, non è il progetto, un progetto di uno può avere gambe più lunghe di quelle degli altri, però. Grazie. Grazie a voi.